fare questo 48, cambio. Positivi, radio super bomba, buonasera, cambio positivo e caparoggiolo, ce l'abbiamo in vendita e 500 euro la vendiamo, cambio. Quanto ho detto? Non ho capito, Gigi. 500 euro. Troppo pesante, cambio. Va fare. Oh, Pomponio. No, non era Pomponio, mi sembra più Vannino, la sorcia. Comunque sempre un affare per chi la vende. Va bene, però attenzione, la sapete di secco che stiamo facendo giocando una scatoletta. La radio non è un 48, è una radio che io, anche se ne tocco tutto, col microfono sono normale, anche se mi danno 400 euro questa radio io non la do, manco per l'anticamera. Ma che è modificata? Ha aggiunto una scatoletta, una camera ecco è quella. Via, sai questi 500 euro che camera ecco compri, quella professionale, la ripetizione digitale che si fa all'infinito ecco. Non so se ne hai mai visto, roba professionale sto parlando, ma mica quella lì. Mi fai un microfono, gli adatti al baracchino e hai un impianto voice impressionante. Ma con 500 euro è un primo professionale. Sto parlando di microfono professionale, amplificatore, senso di voce, e ne compri le poi. E vabbè, ma chi piace modulare così, quella radio le dici tu professionali possono costare anche 200 euro e non ne compagni a nessuno. A chi è abituato a modulare con questa radio così, per passione, in cambio, coso, l'857, il 740, 440, 854 è una fottuta. E vabbè, anche quello è vero, che chi si sogna un malanno e un gusto, come si dice, non so per capirsi, ma 500 euro, ma sai quanti sono 500 euro, sai un baracchino del genere. Io sto parlando, se tu lo usi a casa, no? Proprio un impianto professionale, con 300 euro usato, no? Parlo di un usato, ma lo sai cosa c'è in giro. Anche per quella lì la voce. Oh, yeah. Vabbè, ognuno li prende come meglio crede. È positivo. Avanti il break. Così, Vanni, capito? Purtroppo voi avete l'idea di quella radio e altri no. E sono gusti personali, capito? Io magari per una radio come questa 300-400 euro li spenderei, tu non le spenderesti perché ti compreresti una radio professionale, capito? Sono gusti diversi. Non è il discorso di radio professionale, io sto parlando di impianto voce, cioè di comprare per far uscire una modulazione buona, perfetta, riesci anche a cambiarla, a farla da croccante, per capirsi, anche in AM, parlo anche di quello, ma questo è un baracchino, mai, state dicendo, questa cosa, o se va bene. No, c'è una trombetta. Ma la trombetta cosa può essere? Ma non è ciò che ho combinato. Se la prendete l'amplificazione. Vada a vedere. Sì, abbassa un po' il micchi. Ma guarda adesso, c'è ancora la trombetta. No. Radio, satura buona. È un po' satura. Sì, ancora satura, guarda a vedere. Ma vedete, aspetta un attimo, guarda così. Così è migliorato, io sono troppo vicino, forse lui, non lo so. Chiedi la Vanino più lontano. Sì, ma guarda che sicuramente è quella dovuta al caso di amplificatore. Perché l'amplificatore, diciamo, che potrebbe anche andar bene, se è troppo scarso, nel senso di troppo ingresso di applicazione, oppure ai finali che oltre non vanno, nel senso che sono tutto al massimo. Beh, guarda a vedere, sempre così, sempre satura. Arriva molto meglio. Positivo, positivo, no, era così, una scatoletta stavo provando che beh, che l'avevo messa a posto, dai, il relè che non funzionava e volevo capire se funzionava pure qua, dai. Adesso controllo anche quanti watt sta dando, adesso ci sono, io controllo anche i watt. Beh, è un watt, qui arriveremo ai 30 per capire. Ma è una radiolina, mia attenzione, io che gli ho messo quella, mi ha detto un formato, prova quella scatola sopra quella radio a vedere cosa fa, hai capito, non è una radiolina questa qua, io ho detto sì, è stato 500 euro, ma una battuta però, mi, capito Vanni, una battuta che ho detto, hai capito, però io questa qua, senza scatola, normale com'è, se ne danno 400 non la do perché conosco che radio è. Sai che adesso che fai? Tu lo sai, io sono adesso ho fatto una battuta almeno per capire che io non spenderei mai 500 euro su un mala quanto ho modificato per capire, ecco, poi non lo so cosa stai usando. Potresti anche usare una radio meglio della mia, che ne so, boh, lo devo dire. Però il mio punto di vista, cioè io ripeto, 500 euro è un'area 48, come ne ho visto tanti, non li prenderei mai, 500 euro non compri qualcosa di studio, poi lo metti in cambio, non lo metti in cambio anche se comunque, ripeto, anche se hai un'area 48 modificata è la stessa cosa, e ti trovi un 857, un 702 e così via, è la stessa cosa, possiamo usare comunque apparati diciamo originale, come a casa di fa. Vabbè, poi non so cosa stai usando. Sono lì, ho un tempo che voglio controllare i fatti di questa cosa, che sta quel lo strumento un attimino voglio controllare. Vai, fai, chi è che c'è comunque? C'era Leoncino, c'era Coso, Antonio Grotte, ci dovrebbe essere, Pompunio, ci dovrebbe essere Bombolo, credo. Avanti Leoncino, dai, se ascolti a Vannino lì. Non c'è, chi c'è sul canale 10, chi è rimasto? No, non c'è più nessuno, Vanni, se ne sono andati, fuggite. E via, andate, vabbè, non è grave. Non è grave, non li avevo distrutti, sì. Se vuoi tirare un due di mia misurare il fatto dell'apparato. Cosa fammi? Mi riserve, gli do il birde per misurare il vatto reale dell'apparato. Non lo so, guarda. No, già ce l'ho uno strumento serio, Luigi. Esatto, no, a vedere un po'. A naturalmente è fatto così, però c'è un cosa strana, come si chiama, sì, un capo più corto. Vagava. Tutto becco, tutto becco, Italia ti ascolta, avanti Italia, per Italia. My name is Easy Falcone, operatore Paolo, abitante regione Gesù Giuseppe Maria di fronte all'ufficio IVA. Numero di telefono 26 18 26. Come è vista quel numero? Tu che l'hai inteso? Chi è la cosa sta modulando? Però chi ne prendi? Da dove parli? Da dove parli? Comunicazione Paolo Falcone Naso, che modula dalla isola di Sardegna, regione Gesù Giuseppe Maria di fronte all'ufficio IVA, telefono 23 40 81 e poi 26 18 26 079. Ok, goodbye, goodbye my friend. È il numero mio. Aspetta, noi chiedere da dove stiamo arrivando. È la personale, no? Ripeti il contro, please, ripeti il contro, Radio qua, quando tu li metti anche a bassa potenza, perché questa è una radio che io l'ho regolata a non andare oltre più di 25, perché se non va oltre arriva anche a 40 watt, però io adesso l'ho messo, l'ho messo come prima a 2 watt e già i picchi sui abbondanti e lei lavora bene con 2 watt. Ma guarda, è come questa che arriva adesso. Ne metto molto di meno e modulazione nella giusta, perché comunque vabbè, anche questo è stato modificato, che sai che questo non è il mio sbaglio, però andava in ufficio e vabbè, il mio sbaglio che dice, mi sbaglio, mi sbaglio, tutti i miei sbaglio, dice 5 sbaglio, è la cosa migliore. No, aspetta, Vanni, questa non sento qualche cracchi, nulla, sta funzionando sempre. No, questa non è modificata, questa è nata così, questa radio, hai capito? Esce già dalla casa così, capito che arriva a 40 watt, però siccome io non la adoperavo, e anzi c'era un giorno che c'era Pompuni e l'ho regolata, ma adesso Pompuni, cioè, guarda che c'è il trime, è vero, c'è l'FM, una M, il pompe all'interno, e l'ho abbassato, fino che reggeva bene la radio, che la radio non andava, però al massimo 40 watt andava, la radio un po' te la mangiava, hai capito? Invece così, massimo 25 watt, va benissimo, però io la sto tenendo su 2 watt e mezzo di portante fissa, poi c'è questi picchi che arriva a 10, oltre 10, 15 pure, capito? Ma sono i picchi non reali, capito? E io ho capito come funziona, lo so, io sto usando un piede, così so come funziona, lavorazione così, è come avere un amplificatore, quando arriva la musica, lui sta comunque così, tirare i picchi massimi, comunque tu tieni conto del centro del picco massimo e quello modulato. Sì, il picchi va anche oltre, però è quello modulato, no, già lo so, Fanny. L'osaccio, già ce l'ho avuto anch'io, tipo 140, e ho avuto qualche radiolina, capito? Solo che io non faccio niente e le faccio, quando giro le do tutte a Claudio, capito? A Spalviero, io non ne ho patentino, le do tutte a lui, capito? Vabbè. Che vuol dire averlo, lo puoi avere a casa senza microfono, vuol dire un uscito, potrebbe, sì, quindi non lo succederebbe. No, io uso il 140 perché è più, diciamo, consigliato il metodo su queste basi. Poi ne ho altre, ma gli altri li uso dalle altre parti. Sì, no, questo sono i più indicati, sono i 140 perché sono, diciamo, un mutato giù del baracchino, l'ho fatto allora, là. È semplice, ma comunque vanno molto bene, no, io li uso lo stesso basso, ma il più figlio, e vabbè, certo è che un baracchino a 300 euro, ho visto, stavo guardando le modifiche da fare al baracchino, il doppio modulatore, il centrifugatore così via finale, con 130 euro compri già tutto un picchi per poter fare una da 48 per capirci, ma a sta cosa, alla fine mi chiedo per fare che cosa. Ma sai una cosa, Vanni, io ho venduto una da 48 anni fa e l'ho venduto 500 euro. Con la beta l'ho venduto 500 euro e mi ho comprato il 140 e ci ho anche risparmiato, compreso anche l'MC60, il microfono, ed era di uno di qua, era di già del doppio room, e poi l'ho dato a Claudio, ecco, e l'ho pagato meno di quanto ho venduto quel 48, tu lo sai. Sì, io lo so, perché io lo so che è il prezzo delle radio, io lo so perché so che adesso lo compri 200-300 euro, spesso bisogna avere connessione al 140, io ne ho uno qui davanti, è nuovo nuovo, e insomma anche usato poco, ed è per sé varrà un 300 euro al massimo, capito? Tu hai ragione, però io non lo cambierei mai, anche perché, mi spiego perché. Però tieni qui a casa, però questo ti ascoltare, fare insomma un po' di cose, anche se non lo usi, no, però come ascolto è sempre meglio di avere un baracchino, anche perché quando non te ne sono, te ne vai in alto e ascolti, fa ancora cosa. sia questo il mio punto di vista. Poi ho anche baracchini che sono qua, ho un 548SX che è sempre lì, in caso neonato, due neonati, un amico, cioè baracchini sono baracchini. Ma ce n'era uno, c'era un Cobra, adesso non ricordo, fa da 26, vabbè, a 29 mega, 50 euro, voleva bellino, trattava più potenza, mi sa, vabbè, non ho letto le caratteristiche, perché poi alla fine sento un baracchino, è 150 euro lo voleva, e non l'ho comprata, sì, cosa ne fai? Alla fine, cosa ne fai? Ho messo le macchine, avevo un 706, ho un 857, mi pare che siano un po' meglio, no? Mi chiedo, e quindi tu mi dirai, ma è sempre un malattino, tu li usi o no? Ma io non li avrei comprati lo stesso, cioè 500 euro lo stesso. Beh, 500 euro, attenzione, no, allora guarda, io ne sto dando uno, devo dare domani, ma lo sto dando 150 euro, è un 48 un po' modificato, capito? 500 euro bisogna vedere, 500 euro, attenzione, 500 euro deve essere, io ce l'ho qualche 48, io ce l'ho. C'era Massimiliano, ce l'ho io, 48 da 500, costa 550 euro, non è neanche 500, se tu vuoi farti fare un 48 come diciamo fatto completo, fatto come si deve, ti vogliono 550 euro, tra baracchino, tra apparato e modifiche, capito? Il 48 tu lo puoi pagare 200 euro, 150 euro, 250 euro, 300 euro, 350, dipende cosa c'è fatto dentro, hai capito? Dipende cosa ci hanno fatto dentro, e bisogna che lo capisci pure quella parata, se no piglio una pedonata, vabbè, certo, sono tutti di vista, io non la penso così, quindi sono contrario anche per comprare baracchini, anche modificati, quello che ci hai fatto detto, ma tutto quello che puoi fare, certo, un baracchino, sempre limitato. E allora adesso ti spiego il motivo, ma è semplice, perché il 48 modificato, perché è l'unico baracchino da battaglia che adopera i camionisti, io sono un camionista, poche parole, sono un camionista, tu non puoi mettere un baracchino professionale in camion, se devi mettere un baracchino omologato, allora devi ricamuffarlo, fare delle modifiche, le cose, ecco perché questo 48 è capito, perché sono omologati, ecco perché. Poi giustamente qualcuno se lo muove, non fa, capito? Ecco perché non puoi pulirti tu un altro apparato, chi ti vuole un altro apparato, come si chiama, che non è omologato, si fermano per un controllo ed è un casino. Ecco perché mettono tutti questo 48. Sì, di questo sono sicuro, lo capisco, che mettete normale, non puoi mettere uno, che ne so, uno 706, di questo sono sicuro. Però io quello che voglio dire è anche se avrei preso un macchina normale, tanto comunque sia, si fanno controllo, ma quel resto è che lo staccano, si fanno veramente il controllo, ti dico io, anche perché se ci hanno misurato il campo ai bocco di pure quello che vuoi, puoi dire anche che è uscito non ci puoi fare, perché una volta che ti vede da lontano che ti ha già intercettato, guarda, 2+2 fanno 4, quanto di lì arrivi fanno il conto e sanno quanto vatti spari. Non venire a dire a uno che spari 2 vatti quando vuoi, capisci, arrivi a 9.10 oppure al TCD. Cioè queste cose non lo so se sia a conoscenza, però la potenza si usa anche in questo modo. Quindi quando ti sente lontano, ti aspetta, buia, te lo stacca, lo metti a banco, bocciamo, e tanto dice mi vieni con noi lì, te lo apri lì davanti, tanto è un tutti con quello che c'è a bordo, non pensare. No? Quindi riesci sempre, puoi anche fare come faccio io, per quello che dire, ho due orari, un'antenna, faccio un commutatore, o uso uno o uso l'altro, anche perché quelle modulazioni che avete giù non si possono ottenere, cioè questo doppio alto, esatto, normalmente non si dovrebbero ottenere, poi dipende perché, vabbè che ormai diciamo che i controlli sono quelli che sono, però è così, non si possono ottenere comunque. Lo so, ma ti sto dicendo perché un film lo supera a me. Io questo è nato dalla casa, questo che sto parlando io non è un 48, questa è una radio, è nata, non ho fatto nessuna modifica, io anzi le ho passate infatti qua, da dentro, ma questa è nata così, capito? E questa io adesso, se tu non ci crederai, ci sono due, di portante bianca, ci sono due fatti, adesso perché l'ho staccato lo strumento, due fatti e mezzo ci sono, le portate bianca. Neanche più modulatore. C'ha tre finali più quello pilota che c'ha dentro. Però è nata così, questo è un George, un presidente George, capito? Allora, quella non è omologata, non la puoi tenere, la stessa cosa, capisci? Cioè, non è che cambia niente, quella non la puoi tenere comunque, se andiamo a dire che siamo regolari, allora quella non si può tenere. La 27 parla, la normativa ti dice che tu devi averlo fatto omologato, non più dice che ho fatto. Quindi quello sono le regole, poi tutto quello che mi metti, puoi usare una camera a parte, ma non toccare mai la parata. Se tu lo apri, cambia il modulatore è senza alterare. È come prendere una questa 50, a partire gli metti la manita, gli metti rossimo e là. Ma tu non mi hai compreso, non che non ho modificato nulla in ghita, questa non ho modificato nulla, io ce l'ho già tanti anni questa, ce l'ho da parecchi anni, non ho modificato nulla, però ho visto che dentro ci sono c'è scritto che sono i trimmer. No, neanche io ce l'ho toccato, già non me l'ha detto Pompugna della verità, perché in FM non usciva, no? Era proprio infatti tutti chiusi, non usciva di radio. E allora no, è stato proprio Pompugna, cioè, se era sotto, l'ho aperto, è vero, dice guardato con la c'è scritto guarda, FM, pompe, infatti c'è il trimmer per l'FM, e piano piano ho messo lo strumento, ho messo i watt al massimo e man mano giravo qualcosa e arrivavo a girare 40 watt, però no, 40 poi abbiamo provato e andavo in saturazione e poi ho messo il cemento 25-22 watt. E così è vero, sia che l'ho portato a 22 watt e l'ho messo in AM e in FM a 22 watt, massimo girando perché c'era il pomello fuori che regola i watt. È così è sempre, capito? C'ha l'eco suo, c'ha il bip, c'ha tutta questa radio, non te la conosci, c'ha un po' di tutto, capito? Però sto dicendo, adesso così se tu gli attacchi lo strumento, sono 2 watt e mezzo, che portate, quando moduli questi picchi saltano, capito? Poi se tu giri al massimo arrivi a 22 watt di portante bianca, capito? Sì, ho capito, lo so che stai usando una radio che comunque ha più bassi, sono le altre radio che ne hanno anche 100 di fatto, no? Per capirci. Però quelle non sono fatte per la 27, allora quando le fanno, le prendono, le vendono per uso HF, così c'è scritto, no? Non so se hai mai notato, in questa radio qui c'è scritto uso HF, ma non le 27 ragazzi, perché non dovrebbero essere vendibili in quel settore lì. Però non vuol dire che la puoi usare, lo so che ha più fatto. Adesso c'è, come si chiama, quelle americane che hanno 100 watt, passano anche da 200 in banda laterale, pensa un po', adesso mi ricordo più la marca, per capirci. Ce n'è anche uso così, per i camionisti le fanno, no? Soprattutto in America che funzionano forte. Però non è che se te la trovano, è così. Ecco, ma hai trovato il 702, uguale, la stessa cosa. Comunque, l'ho vista, ne hanno venduta una a 70 euro su eBay di quella lì. Infatti la stavo guardando e poi non funziona, non mi interessa. Ce ne sono comunque di se vuoi anche acquistarle di roba interessante. Sì, però torniamo al discorso, sono belle perché sono barattine, sono un po' migliori, ma io ho abituato ai miei, insomma, tutto un altro mondo. Quelli si possono usare 27, vale? Vale, non ne ha nulla, puoi usare, esclusivamente un barattino. Adesso non è che tu non le puoi usare, ma qui le posso usare. Anzi io sono qui perché ho la concessione, se non sei stato qui, sarei stato un abusivo. E un'altra cosa, ascolta, il Tornado 34S è omologato, giusto? Guarda, non è che non so cosa dire, io i miei sì, perché dietro c'è scritto l'omologazione e così via, però quando tu li compri la prima volta loro danno 5 watt, non c'è verso, poi i compri vanno anche a fine, a 18, 17, chi più chi meno, però si è alterato. Perché per dire, io ti dico una cosa, io ho un Tornado 34S che va a 5 watt e c'ha FM, AM, USB, LSB, se rompe 5 volte da però, e i canali sopra e sopra, però è omologato, è stato comprato dalla fabbrica così. Ha ragione, però per esempio puoi andare, adesso la banda della 27 non lo so, non l'ho mai letto, ne ho consiglio perché non è che, però mi pare puoi andare fino a 27, con quelli lì fino a 27 e 600, insomma le cose, comunque un po' più per quello con le bande laterali. Quindi a 120 canali omologati, gli fanno bene lo stesso, però sempre 5 watt, la potenza è quella che gli lega. Sì, questo qui è omologato, in poche parole tu, un esempio, vai nei canali di sopra, vai nei canali di sotto, vai in banda laterale, vai nel ferro, sempre 5 watt da, capito? Non le dà di più. Aspetta, quello non nasce con i canali sopra e sotto, attenzione, se le fanno dopo, oh, Massimiliano, non nasce con i canali sopra e sotto, cioè, quella è una cosa aggiuntiva dopo, capito il tornato? No, lui, tu ti stai sbagliando di grosso. Allora, nella ditta dove lavoravo io, ne hanno comprato 30 di questi tornado e sono tutti uguali, tutti con i canali sotto e sopra, tutti quanti, usciti dalla fabbrica direttamente così, con i canali sotto e sopra, bande laterali, però non dà più di 5 watt in tutte le bande, sia sopra, sotto, in banda laterale, più di 5 watt non le dà. E sono, e li ha comprati così, direttamente con i canali sotto e sopra. Sono quelli europei. Non so, non ne sono sicuro, comunque l'8001 io ce l'ho, l'8001 va lì, e nasce con le bande laterali e tutto quanto, è omologato, però esce con quattro passi, anche banda laterale, nasce con quattro passi, io ce l'ho l'8001, anche l'MV2, me ne ho tenuto uno e ce l'ho in camion, quello che c'ho in camion è l'8001, e l'altro me lo sono venduto. Perché sono europei, sono quelli, sono nati già così, capito? Esatto, ti vuole, ti è il processo unico della legge pubblica sicurezza. Se da fare un po' di lettura, poi ti dico cosa puoi, se e che cosa si può fare, perché l'uso delle bande. Allora, vediamo, le vettine che la prevedono devono essere fatte 300, 25, 25, 27, 25, ogni capo è un potenza massima di 25 watt, questo è 200, 27, 410, vedi che sale anche di più. Se è una classe, no, non è una classe. Allora, se tu guarda, se tu vai su internet, te lo dice, allora il giornale è l'uso libero, addirittura gratuito è l'uso libero, per l'applicazione CD, dichiarazione, Lussemburgo, poi guarda, c'è tutto, adesso me la caso, lo leggo e poi la prossima cosa vi dico, dove in Ungheria addirittura vedi la 26965, 27465. Ho capito, Massimiliano, nascono così perché sono europei, quindi ci fanno lo stesso nelle bande alte, pure questo lo fa, è così, basta mettere un codice e va, quelli là erano fatti così. E comunque ci sono tante cose che non fanno e si usano lo stesso, e cosa si fa? Va bene, dai, io signori faccio un secondo di bianco, riprendo dopo se coincide, per il momento vi saluto con la buona sera a tutti. Ciao. Massimiliano, ciao, ma cosa non fa, quelli sono fatti così, sono fatti, molti non lo sanno che quelli lì sono fatti, concepiti in quella maniera, logicamente sul paese dove siamo deve usarlo entro il 40 canale, però sono fatti così, dice, possono andare oltre perché sono europei, hai capito? In Italia hanno sempre molto gradito. Quindi 4 watt in Italia è la missione. Perché? È stato avanti. Ciao lui, ciao anche all'amico Bambino, Antonio, Massimiliano che è passato in quadrici, sono un po' tutti. Salutoni, Giulio da questa parte. Avanti lui che mi ha fatto entrare. Ciao Giulio, buonasera, in compagnia di Vannino e Antonio, c'è Antonio Pompola, gli altri. sì, c'era Antonello Pomponio, ma ci deve essere assentato avanti per Vanino. Ok, sì, infatti, ho ascoltato, anzi, mi stavo ascoltando e devo dire che sono d'accordo con tutto quello che ha detto Vanino al 100%. Va bene così, perché in effetti le regole sono regole, poi ognuno chiaramente si fa e si compra quello che vuole e lo usa fin quando lo può usare o quando la legge lo permette, dopodiché tutto cambia. In effetti è così. Sono d'accordo con il mio, quello del 34S ce l'ho anch'io. Il 34S è vero che è omologato, però ha 23 canali, da 1 a 23 normale, poi gli altri che vanno sotto sino a 34, sì che sono 34 canali, però ce ne sono 8 o 9, non sono preciso, che sono canali di sotto, dunque quello è il discorso, non significa niente. Tutto quello che ha detto Vanino, perché io mi sto ascoltando da almeno un quarto d'ora oltre, io sono d'accordissimo con lui al 100%. 4 watt, massimo 5, e i canali che si devono utilizzare sono da 1 a 40. La banda laterale si può usare, però sempre con 5 watt e non di più. Tutte le altre cose sono tutte fuori legge. Nessuno ci fa caso, noi andiamo avanti in questa maniera. Però in realtà sono tutte cose che non si dovrebbero fare, ma non è un sacrificio, insomma, se li facciamo. Tutto lì, avanti la mia. Pari adesso non me la ricordo le bande della numerazione dell'HD. Cioè, veramente non le ho mai prese in considerazione, perché poi a fine non mai. È anni che non ho usato la banda CB, che poi io ho usato sempre per DS, quel poco che l'ho usata, per un po' di anni che l'ho fatta, capito, l'ho fatta qualche anno, ma soprattutto ho fatto solo DS, faccio un casino di cartoline e poi avevo fatto il salto qua, capisci, là. Quindi no, però è così, anche se hai 120 canali comunque, il baracchino potrebbe essere omologato. Adesso con l'uso europeo so che la circolazione libera delle radio, quindi la puoi comprare, però tu non ci puoi andare. Come per capirci, per farti un'idea, io la radio aperta da 0 a 30, ma non è che posso parlare a 0 a 30, no, sono delle bande specifiche in cui tu puoi andare lì, e così sono anche il baracchino quando è omologato a 120 canali, però a 4 watt, 5 watt, tu puoi andare solo lì, è come il PMR, no? Sono quelli canalizzati e quelli a banda libera, però potresti anche usarlo a banda libera, l'importante lo usi in quella frequenza lì, è quella potenza. Poi il resto sai com'è, finché non si scoccia nessuno, finché tutto va bene, quando non va bene poi, ma spero che siano finiti i tempi di controllo, anche perché controllare costa anche una cifra, insomma, non c'è più la stazione di ascolto a Roma, insomma, alla fine penso che ci siano cose più importanti, credo, e poi sai, ogni giorno se le alza qualcuno e cambia un po' le regole. Però è così, fino adesso, no. Si sta nel cerchio là, diciamo una cosa del genere, ancora, tutto tollerato, però speriamo bene che continui, per tutti, Ok, le prendo ancora io, sì, perché in effetti è così. Poi devo anche aggiungere che se dovessimo parlare di valore di apparecchio, non è che si può paragonare un baracchino a un HF, anche se il baracchino costa 500 euro perché ci sono delle modifiche che poi, secondo il mio punto di vista, sono delle modifiche assurde che non servono a niente, non si può certamente paragonare con un pendolo, con un HF, insomma, con un 757, perché non è possibile nella maniera più assoluta, per vari motivi, intanto perché ha una larghezza di bande che non è paragonabile nella maniera più assoluta. Baracchino, infatti, è sempre un baracchino. Io personalmente, per quanto possa essere buono un baracchino, comprandolo di seconda mano, non farei fare mai una modifica, comprandolo nuovo non farei fare nemmeno una modifica ugualmente, e soprattutto non spenderei mai e poi mai, quando si tratta di seconda mano, più di 100 euro, anche se modificato, perché è solo una porcheria. Io lo vedo in questo modo, poi ognuno, ripeto, ha le sue idee, le sue cose, io accetto le idee degli altri, per carità, ci mancherebbe altro, non polemizzo con nessuno, non così, non voglio farlo, non l'ho mai fatto, non lo farò mai. Avanti Antonio Bombolo. Capo, allora, volevo dirti una cosa che molti non sanno. Allora, questi apparecchi qua, questi apparecchi nuovi, di nuova concezione, hanno i cosi, hanno le bande, hanno, cioè puoi andare oltre i canali, però per esempio te lo scrivono anche che tu devi andare, perché sono apparati europei, anche quell'altro nuovo che ho comprato ne ha di più, ma sulle cose ne ha di più di canali. Perché sono apparecchi europei? Perché questi qua sono fatti per altri paesi, infatti c'è scritto l'apparecchio per regolamentare la banda di frequenza CHD 40 in FM e 40 in AM, selezionare la frequenza del tuo paese. Perché è fatto così, tu devi mettere la frequenza del tuo paese, metti questo, per esempio questo qua è a 12, metti quello lì e se a te ti trovano tranquillamente parlando nei canali giusti, che non va oltre, non ti fanno assolutamente niente. Non ti fanno, cioè non sei passibile di niente. Perché? Perché è fatto anche per un altro paese, è fatto. Questi apparecchi qua nuovi sono fatti così, sono apparecchi europei, non è, se tu finché usi 4 watt e usi in quei 40 canali, non ti fanno assolutamente niente. Scusa, ecco, sono guardando apparecchi sullo spicchio. Beh, certo che non lo so, perché devo fare, no, aspetta, che qua, se no qua è un casino, ecco, spento tutto, se no è un macello. Stavo dicendo, altro, beh, certo, anche se tu vai metti la sigla degli altri paesi, quello lì si chiama un'apparecchiatura multibande, si chiama, no? Però questo non vuol dire niente, perché se le usi con la frequenza e le usi sempre con quella potenza, è chiaro che vanno bene sempre, no? In Europa, e dunque ci sono certi paesi che hanno le nostre frequenze, ci sono altri paesi che magari la cambiano la frequenza, e allora quel tipo di apparecchi ti dà la possibilità, dal momento che hanno quelle altre frequenze, essendo multibande, cioè 10 bande addirittura, pari a 400 canali, io ce l'ho quell'apparecchio lì, ma questo non vuol dire niente, è sempre un apparecchio di bassissima potenza, 4 watt, 5 watt e tutto lì, niente di più. Vai lui! Ma pure l'8001 che c'ha Luigi è così, mi sembra che sia un apparecchio europeo, esce 4 watt, certamente tu non puoi, non è che puoi approfittartene, non puoi andare, sono omologati, sono, purtroppo è fatto così, molti non lo sanno, questi qua sono europei e sono fatti così, però già ti puoi andare nell'artigianale pure. Però se ti trovo logicamente sei sanzionato, perché è così. Sono apparecchi multicanali, capito? E non è quello il discorso. Interessante che tu utilizzi quella frequenza con quella potenza. Poi dove lo usi, ci sono quei paesi, ce l'hanno diversa la frequenza, e allora quel tipo di apparecchio ti dà la possibilità di adeguarsi in quelle frequenze lì. Però generalmente diciamo che in linea di massima hanno le nostre frequenze, hanno quasi tutti i paesi europei hanno le nostre frequenze, eccetto altri che pure cambiano. Al limite quelli vanno in FM magari con 4 watt, mentre noi in FM andiamo con 4 watt, andiamo poi nell'OV in AM ci vanno con 1 watt, ecco qual è la differenza, ma questo non vuol dire niente altro. Quando si tratta di apparecchio omologato va bene qua, va bene in Polonia, va bene un po' dappertutto, diciamo, dai, tutto lì. Vai Luigi. Positivo, no, io l'8001 ce l'ho, Giulio, è vero, c'è scritto la ciatola, qua c'è anche scritto omologato, però nasce con 4 watt. E dico una cosa, Giulio, c'ha 10 bande, ha 10 bande, tutti i mesi canali alfa, FM, USB, c'ha tutto già. E già dice, non ci potete, vabbè, io non li adopero perché tanto non servono andare quando fai massimo io vado su una banda sopra e sotto non ci vado quasi mai, però quello va mi pare adesso non mi ricordo, comunque c'era 10 bande, va A, B, G, B, E, F, G, H, L, I addirittura, e là c'è il monogatto con 4 watt però e banda laterale, sempre con 4 watt Giulio, però ce l'ho io, l'ho comprato io, ed è monogatto, c'ho la scatola, c'ho il coso dentro, il certificatore che è monogatto, dice non 5 watt ma bensì 4 watt in AM e USB, sempre 4 watt, in FM la stessa cosa, c'è scritto nel coso 4 watt quando esce dalla casa. Ma io cosa ti sto dicendo? Ti sto dicendo che ce l'ho anch'io, 10 bande, 400 canali, 40 canali per ogni banda, dunque 400 canali totali. Però se tu vai all'estero, per dire, in un paese dove c'è un'altra frequenza, ecco che lì li puoi usare, però magari devi andarci in FM e ti dà solo 4 watt, oppure te ne dà uno, è così, vabbè, lo sappiamo, là. Comunque quello che conta è sempre quella, 40 canali omologati, niente di più, poi dove vai, perlomeno in Europa è così, poi negli altri paesi non lo so, addirittura in Germania sono 40 canali sotto, anche 40 canali sotto e 40 canali sotto, non lo sappiamo benissimo, va bene, comunque interessante che sia omologato o che sia di bassa potenza, tutto lì, avanti Vanni. Sì, infatti, ma è così, il problema è anche la potenza. Infatti quando sono omologati oltre non vale quella potenza lì, ecco perché sono omologati. Perché adesso con l'uso della comunità europea uno può prenderlo anche in Germania e basta che abbia il marco CE e a posto. Guarda, se ha il marco CE tu puoi andare dove vuoi con quella radio lì. Dove pulsi e lo usi. Perché anche le bande radioattoriali non sono tutte uguali, almeno ci sono dei punti in cui non si può operare in certe frequenze. È così, però non è che perché non puoi avere l'apparato, non è detto, soltanto 4 watt, 5 watt, adesso non me ne ricordo, però comunque in Italia parlo di 4 watt, in altri punti ancora meno, e anche di più. Ma che c'ho davanti la cosa, c'ho la scatola dell'8001 e faccio un ripreso, un corso. 4 watt dice, c'è segnato, c'è scritto in grande, anche sul coperchio della scatola, fa vedere, in AM e USB e via dicendo, e fanno laterale, c'è scritto 4 watt, non 5 watt, né 4 e mezzo, 4, proprio 4 sotto dove c'è scritto, in Italia. Vabbè, io anche adesso non ho... però mi ricordo che erano 5 watt, lo ricordiamo, però 4 watt, c'è scritto, puoi dire che quello è il mio dato, capito? Perché lo metto in evidenza, come dire, questa radio è ok, poi può avere anche 100 canali, però non è detto che perché ha 300 canali tu puoi andare lì, capisci? Sì, deve attenere alle leggi italiane. Ecco perché ti dico, io adesso non me lo ricordo, addirittura fanno da 1 a 20, cioè in Italia, ma 40 canali, no, da 1 a 20, dal canale 1 al canale 20, anche se ne hai 40. Sì, ma ti dico una cosa, non servono a niente, perché se tu ti sposti, fino a un canale sopra puoi trovare qualcuno, ma se te ne vai già due canali, tre canali, già, non c'è nessuno, è deserto proprio, non c'è nessuno, non c'è puoi ascoltare mai, non c'è mai nessuno in quei canali lì, capito? E allora cosa, è inutile avvertire quando non ci vai mai, capito? Io a volte quando sono, che c'ho qualche altro collega che ce l'ha come il mio, il coso, se vogliamo parlare di queste cose, dico fatele tre volte le tre bande sopra, fatele tre bande, ecco, e ci siamo per fatte oltre, e so che non ci arriva nessuno viaggiando in casa, non sono tutti che ce l'hanno, e non ci sente nessuno, ma stiamo viaggiando in camion, capito? Chi ce l'ha come il mio, che sono in buchi, capito? Che ce l'hanno così l'8001, perché se tu lo fai comprato quell'apparato che costa €340, costa 300, adesso penso che abbia anche finiti lì alla CPG, CPG ne aveva qualcuno, costano €340 quell'apparato lì. Ma che costi anche 500 è... Ovviamente. Il problema è che comunque quando vai nel 40 in sopra, se c'è propagazione senti gli attestati, perché sono le banda laterale soprattutto, lì li assurdi. Funziona così, quindi chi ce l'ha ne fa un uso anche così, poi in cambio giustamente lo usa, non è che puoi usare le banda laterale anche perché poi viene male, però è così, tu vai, lo lasci in questi giorni, prova a guardare, se vai dai 40 in su, trovi attività realistica, sempre RSB o SB. Chiaro, sì, certo è che in AM è anche tu, anche perché poi anche in su, cioè tutti stanno lì con i quattro canali, perché funziona in questo modo, ma la banda è quella lì, non è che puoi pretendere di... Io mi ricordo che ai tempi in cui io usavo la banda, questa banda qui, ero sempre da 27, 400 in su, a 600, a 700 c'era il mondo intero. Come fatto avevamo 4 elementi che ce l'ho ancora qui. No, l'ho piazzata perché ho piazzato la volta antenna, direttiva lo stretto, però così, già. Cioè, erano altri tempi, almeno io mi ricordo così, poi non so gli altri che attività abbiamo fatto. Poi così, non c'è nessuno, perché chi c'è? Da quando sono nati i telefonini sono divenuti a picco anche le attività queste. Io mi ricordo che prima dei telefonini tutti erano radio, baracchini, WhatsApp e così via. Poi la tecnologia ha superato anche questo. Anche il piccatore non va via, tutti i rimuglieri del piccatore non va via lo baracchino, tutti l'avevano lì a produttore, ce l'avevano tutti, e tutti i pescatori quando ci vanno in barca per chiamare le mogli non c'erano il telefonino, no? chiamavano il baracchino e parlavano col baracchino, che senza pochi anni fa se ne sentiva qualcuno la mattina presto, adesso non ce n'è più e non esiste più tu in barca a parlare, tranne che da qualche anno fa ce n'era uno di Sant'Antioco che sentiva sempre, anzi parlava pure con noi, che usciva in barca col peschereccio, che ce l'aveva, ma ci aveva avuto quello qua, c'aveva anche un baracchino che forse era uno che aveva stazione fissa, e sì, infatti quello ragazzo c'aveva stazione fissa, e ne approfittava in mare di parlare a baracchino, capito? Però questi è perché lo facevano, perché non c'era il telefonino, capito? Ma non c'era il telefonino, e allora trattavano il baracchino, e poi allora la maggior parte, tutti ce l'avevano il baracchino, le mogli dei pescatori, capito, Fanny? Infatti per la storicella, quando poi non è uscito su il telefonino, la gente ha cambiato parecchio, io lo so che prima nelle bande è un po' più su di questa, per capirci, erano tutti, ti ricordi quanti WhatsApp aveva la gente sempre, no? Usavano le frequenze di pescherici e così via, e poi insomma è mai così, la tecnologia cammina e la gente ci arriva, adesso i telefonini, i baracchini ce l'hanno in pochi, i nuovi diciamo nuova era, non ne frega niente perché hanno i computer, i videogiochi, hanno quella radio, la radio purtroppo tengono a morire, ma io già ce la colgiamo noi. Più su, no, prima c'era l'attività UFA, adesso è morta, a parte l'HF, ma i VU e superiori non trovi quasi niente, cioè non è che non trovi, c'è, cioè, però è diminuita parecchio, io sono da 91, questo un po' e lì c'era vissuto di più, adesso poca roba, poca. Se vuoi fare attività la fai l'HF, perché lì è un bel aperto e trovi un mondo, ma se no, nulla. Io ne approfitto a salutarvi che sono qua in garage e per tempo umano e Fender me ne vado su a casa, dai, al limite riaccendo da su da casa, dai, che qua sono nella, dove c'è questo magazzino che aspetta da pasticciare a forse a passare il tempo. Andava bene, dai, al limite già vi faccio, se ci siete ancora già accendo sopra, dai, se no ritenetevi salutati, vai giù. Ok, d'accordo lui, ci sentiamo allora, salutoni, alle prossime. Comunque ad ogni modo io devo dire sempre che a noi ci sono concessi 40 canali, anzi se devo essere ancora più preciso, in questi primi 40 canali, da 1 a 40, dalla banda da 265 a 27 405, sono quelli canali che per regola si devono utilizzare, tutti gli altri canali sono fuori legge per noi, anche se li usiamo, perché li usiamo tutti, e questo è il problema. E se devo essere ancora più severo, devo dire che anche in questi 40 canali, cioè da 26.965 a 27.405, non tutti e 40 si dovrebbero usare, perché il codice di avviamento postale, cioè il codice PT delle poste telegrafiche, dice che dobbiamo usare i canali relativi alla 344, il che significa che ci sono 7, 8 o 10 canali che noi in realtà non li possiamo usare. Mi sembra che siano da 1 al 9, dall'1 all'8, in preciso, adesso non me lo ricordo più, bisogna che rilegga il regolamento com'è. Li usiamo perché intanto non c'è nessuno, e poi ce li abbiamo, li usiamo, però sinceramente non si devono usare. Torniamo sempre a quel discorso. Poi il fatto che uno ha 400 canali, anche io in questo momento sto usando un baracchino che ha una marea di canali, però oltre 40 in realtà non ci dovrei andare. Se vado su, poi rischio addirittura di andare sui 10 metri, perché questa arriva a 29.999, sicché vedi bene, già ai 28 mega siamo a 10 metri, non ci devi andare, e il discorso è questo. Tutto lì. Va bene, c'è ancora bombo, allora che bombo? È una lezione. Magari dici che cose, tutti i 40 canali si possono usare. Magari tranne il 9 converrebbe lasciarlo libero, nel canale d'emergenza. Il 9-19 era il canale d'emergenza, ma gli altri si possono usare tutti. Cioè si può andare anche sul 19, non c'è problema. Però tutti gli altri sono a posto, ma adesso manco più quello si fa. Non è così, Arturo, non è così. Noi li usiamo i 40 canali perché se li hanno concessi ci danno la possibilità di parlare, però in realtà se tu leggi il regolamento ci sono 7, 8 o 9 canali che in realtà non si dovrebbero usare perché sono adibiti ad altre funzioni, sono adibiti. E stai tranquillo, leggi il regolamento e vedrai che te ne renderai conto. Avanti, Vanni. Lo di tutti i colori nel suo sangue, tutte le cose che non sono. Vicino. Via il 16 lo stesso, e così, ma adesso li usi perché poi non c'è più nessuno, mi hanno fatto insomma il cambiamento delle bande, però era così, hai detto bene, c'erano dei canali e poi ti rendi conto che erano canalizzati, quindi tra un canale e l'altro c'era il canale alfa, e poi se tu guardi le frequenze dall'1 al 40 non sono lineari, quindi c'è anche dei flussi, è un casino, ma poi ripeto, alla fine oggi non è appunto più da nessuno, anche perché comunque a chi interessa, non interessa a nessuno, vabbè, non interessa a nessuno, eccetto che cioè, ormai le frequenze sono state spostate, questa è una banda morta, nel senso che è morta giusto per metterci due o tre persone, dove è più di un invidio, è un modo di fare, ma alla fine funziona così. Io credo che poi non anche se non usi, ma cioè il fastidio a nessuno, perché poi finisce così, ormai chi deve parlare le frequenze sono più alte, più protette, più tutto, quindi era un modo anche di farli, di gestire, è tutto il discorso di lo Stato che ti dà un bruciolo di cose, ti dice niente, gioca ti vieto e ti limita pure. Ma se no a cosa serve? Se anche se va a 27 e 600, a chi discute, a cosa crei? Che problemi crei, capito? Non serve a niente, però purtroppo le leggi sono quelle. Appunto, beh certo, ma l'ho chiarito, no? Come avevo io ho detto, se dovessi essere ancora più severo, ho detto, ci sono certi canali che anche nell'ambito dei soliti 40 canali non ci si può andare, ma siccome ce ne abbiamo, li usiamo perché lo facciamo tutti, nessuno ci dice niente, di conseguenza tutto va bene così, niente di più, però questo non toglie che ci sia una regolamentazione che nessuno di noi rispetta, proprio nell'ambito di questi 40 canali, tutto lì. Poi se andiamo oltre, come appunto stai eccetera, di tu, 27.600 anche, 2.40 ci fermiamo ai 450, ai 405, anzi, 27.405 ci fermiamo, però se dovessimo salire ancora, si fa in fretta, deve fare anche ai 28, se per quello, allora con la frequenza, anche se è un baracchino ed è omologato, non ci si deve andare, perché? Perché si arriva sempre a 10 metri, è normalissimo, è tutto lì. Ma mi sembra che poc'anzi voleva entrare qualcuno, avanti, c'è qualcuno che vuole entrare? Non c'è nessuno che si affaccia. Avanti, Antu. Io non ho letto da nessuna parte quando ho fatto la concessione per il baracchino. Mi sa addirittura io non l'ho letta. Se l'ho letta letta Puglia o so, guarda, veramente. Ma ne sto sentendo tante di cose strane. No, Antu, non è una cosa strana, fidati che è così, stai tranquillo che è così. Oggi quando tu fai la domanda, o meglio, paghi la tassa, nemmeno ti risponde Cagliari, se ti puoi immaginare. Una volta ti mandavano tutto un regolamento, ben scritto, ben chiaro, e tu lo dovevi rispettare. Anche se sinceramente, devo essere onesto, mai nessuno di noi ha rispettato certi canali, perlomeno quei canali lì l'abbiamo sempre usati e continueremo sempre a usarli. Un po' come ha detto Vannino, che non c'è nessuno e in realtà non diamo fastidio a nessuno. Non essendoci nessuno non possiamo dare fastidio a nessuno. Ecco, questa la realtà è questa. Però effettivamente nel regolamento ti posso garantire con la massima sicurezza che ci sono alcuni canali, di preciso non so quanti, 7, 8, 9, non lo so di preciso, che nell'ambito di questi 40 canali che noi utilizziamo non li possiamo per legge utilizzare, ma li utilizziamo ugualmente. Proprio perché, ripeto, non c'è nessuno, li utilizziamo e basta, tutto lì, vai Vanni. Scappa, tu dimmi in che regolamento si riferisce, in che anno si riferisce, io vorrei fare questo regolamento. Quindi... No, se vogliamo provare, tu dove c'è Domandino, non capisco niente, ne attendo lui. Cose, no, prima una volta c'era tutti. Domandino lo sento, figlio. Problemi allora con il problema, ma chi ma va, questo è sciuro, ma chi serve? Basta. Stavo guardando UAB, questo dice la differenza, no? Che c'è, cioè questo Alan 48, e lei è omologato, 40 più 40, canali, AMFM, 250 euro, e vabbè, comunque questo è da capire. Però è un 40 canali più 40, omologato. Questo per tutti è vendibile. Ma non vuol dire che lo puoi usare, no, o lo puoi anche comprare, però devi usare una per queste che sono giuste in Italia, quelle corrette. Ecco, poi capisci se anche se ha 120 canali, non è detto che tu vai a 27.600 modulare. In Italia certe frequenze non le puoi usare, non le usi, è come dire, da 1.40 c'ho delle frequenze che puoi usare e delle frequenze che non puoi usare. Comunque, vabbè, intanto è di asintoma, è così, la legge è quella lì. Infatti adesso se tu vieni, io ho rifatto la concessione tempo fa e non c'è scritto che il teorico del tempo fa c'era il modello della radio, tutte queste cose che dovevi scrivere, cioè adesso invece non ce n'è, non c'è niente, il fungo è, io lo so, però provo, ce l'avevo qua da qualche parte, c'è scritto solo di che ti devi attenere alle leggi in Italia riguardo al comma 1 e così via, quindi non parla neanche di due radio X, due radio, non parla di niente. Qui c'è solo tu per usare le frequenze da 27 MHz e di quelle italiane. Comunque è basta, le frequenze sono queste. Vai, se le leggi bisogna che scarichi il muro, ti guardi cosa puoi fare e cosa non puoi fare. Non so se hai mai visto adesso un muro per mandare giù a Cagliari. No, adesso uno cosa fa? Uno va, chiede un modulo prestampato, nome, cognome, indirizzo, queste cose qua, lo spedisce, paghi la tassa, ci metti la fotocopia della ricevuta, come hai pagato i 12 euro, i canonici 12 euro annuali, Cagliari nemmeno ti risponde, guarda, è tutto diverso da come era prima. Prima addirittura, te lo ricorderai, ci voleva anche l'autorizzazione della questura, tanto di fogliera penale, tanto di foglio di buona condotta, un sacco di stupidaggini, per cui alla fine è risultato un casino. casino lo stesso per il semplice motivo che allora c'era casino con tutte queste regole, con tutte queste cose. Oggi invece, vabbè, il numero delle persone che ci sono oggi sono limitatissime e devo dire che oggi la frequenza è tutto sommato pulita rispetto a prima. Però prima c'erano tantissime persone, forse ci si parlava di più, forse anche ci divertivamo di più, non lo so, forse c'era più passione, non lo so, il fatto sta che è così, capito? Avanti a tu. Se scappa, quella del burro rompi, se capito. Ehi, prima no, cioè non ti lasciavano vivere neanche, diciamo la verità. Sì, non è che non ti lasciavano vivere tu, eravamo noi stessi casomai che non permettevamo a certe persone, perché allora subentrava la legge del più forte. Se tu avevi una trazione potente e magari anche attrezzato di buona antenna e di un buon lineare, riuscivi a dialogare. Altri invece che uscivano con qualche antennino o con un baracchino un po' scadente di potente eccetera, raramente riuscivano a parlare, anche se ci hanno parlato lo stesso per anni, però parlavano ma in maniera molto limitata, perché prima la lotta era sempre a chi era più forte e a chi non era più forte, e devo dire che ancora oggi questo fatto lo devo sottolineare. Ancora oggi c'è qualcuno e vuoi te lo biscende, guarda così e guarda là, tutte queste cose secondo il mio punto di vista, il mio modo di vedere, qual è il motivo per cui si deve parlare alla radio, sono tutte cose, sì, si può chiedere un controllo, ma non continuamente contro i biscendi, e quanto sto uscendo, è come questa radio, io ascolto quest'altro, ma basta, facciamo un dialogo, cerchiamo di scambiare quattro chiacchiere, non le solite cose, il microfono è così, è questo è un po' rao, quest'altro è così, ma non è possibile, ne abbiamo ricatto di bieni, la gente si allontana anche per questi motivi, capito? Il discorso è questo, cioè la radio deve servire per fare anche dei discorsi un pochino validi, un pochino concreti, non dico di rimanere tutti provvisori, letterati tutti quanti, nella maniera più assoluta, ma noi ci facciamo venire da noi, proprio ci facciamo venire con tutti questi controlli, con tutte queste cose qua, capito? Tutto lì, io non, tu lo sai, io non me la metto mai, però a un certo momento bisogna anche dire certe cose, perché bisogna cercare di migliorare la situazione. Io sinceramente a questo punto uno perde anche la passione, perde un po' tutto, capito? Avanti Vanni. Aspetta un attimo Giulio, ti voglio rispondere subito. Purtroppo abbiamo tutta la testa da tutti. Adesso ci è rimasta poca gente, quindi ma comunque siamo divertiti, ma danza un disastro, è una cosa migliore. Ah, per la danza funziona, ci sono delle baracchine, sono mancanti, niente mancanti. Come si fa per un baracchino a 300 euro, 350 euro, usato ma sempre garantito nuovo, funzionale, 350 euro. Oh yeah, vabbè, tutti ci mettono anche l'affetto adesso dentro, yeah. Ma io premesso che ognuno i suoi soldi li brucia come crede, no? Però io quando sento ad esempio, e tante volte ho sentito anche Claudio che ha sempre detto le stesse cose dicendo ma per comprare un baracchino 300 euro mi compro un HF, mi compro, ma che il prezzo è quello, e almeno se non altro un apparecchio, no? Non ci sono dubbi, la differenza è notevolissima, anzi non ci si può nemmeno fare un confronto, no? Nemmeno anche esplicare parole per poterli confrontare, è un'assurdità. Cioè io capisco che a una persona possa anche piacere un baracchino modificato con doppio modulatore, con tanto di eco, con tanto di questo, con tanto di quell'altro, per carità, ripeto, i soldi sono suoi e se li spende come vuole, però io sinceramente non li spenderei mai e poi mai spenderei una modifica di 300 euro su un baracchino che magari te ne costa 200, è un controsenso, anzi addirittura per me è un'assurdità. Tutto lì. Allora, detto, cosa mi dicevi? Allora, quello, innanzitutto, quella è passione di persone che gli piace così, ce l'ho io, ce l'ha Claudio, ce l'ha Massimiliano, ce l'hanno tante persone, l'apparecchio così, e io non ne ho uno, ne ho anche due, però quelle sono passioni che si hanno e vabbè, sono per un certo scopo, per farsi sentire più forte da lontano e per usarlo nella macchina, per usarlo in quelle cose lì, però la questione non è questa, Lasciamo infatti il controllo, la questione è che un po' di tempo da questa parte si sta un pochettino provocandoci, cioè rompendo le scatole. A me nella verità non piace questa cosa. Ogni sera è sempre il caso, con la legge del più forte cosa. La verità non mi piace questa situazione, ecco come. Va bene un giorno, due giorni, però fare ogni giorno con la legge del più forte, non mi sta piacendo molto questa cosa, perché se ognuno si mette a fare il forte, pure io mi metto a fare il forte, piglio la macchina, ti pongo la base magnetica, mi metto sotto casa e vinci il pavità. Ma che senso ha? Ma cosa vuoi che ti dica? Tu come vedi, l'esempio sei tu stesso, guarda, tu stesso saresti un esempio secondo il mio modo di pensare, perché esci con un antennino, ti sentono tutti quanti, che motivo c'è di mettere potenze elevatissime, non fai altro che disturbare, ma non disturbare nel senso perché ognuno, ripeto, fa quello che vuole, però se ti ascolto per dire con una radio che ti spacca le orecchie, tanto per fare un esempio, no? E l'altro ne arrivo con una radio moderata che è più ascoltabile, devo dire, perché quando la radio è potente tutto sommato dà anche fastidio, no? Ascoltare le persone, soprattutto se ascolti in cuffia, allora devi stare col volume, aumenta, abbassa e così via. Se invece tutti quanti dovessimo usare una regola, o meglio, se dovremmo fare un esame di coscienza e pensare, utilizziamo sempre i microfoni a un certo livello, utilizziamo le apparecchiature a un certo livello, in modo da non poter dare fastidio né all'uno né all'altro, perché non è solo questione di splatter, quello o quell'altro. Io ad esempio sono di quelli che splatter non le sento, tu lo sai, io sono fuori dalla città, di conseguenza splatter chi è che me li dà a me? Solo quando entro a Valpil qualche volta, raramente che entro in questa frequenza, allora sento che c'è lui, ma il problema non esiste, perché allora io mi metto nel canale dove lui e tutto fila liscio, per dire, no. Però quello che dà fastidio è anche i grandi microfoni, quelli che ti spaccano le orecchie, proprio non è piacevole, bella tutto quello che vuoi, chiara, ammodazione, però troppo potente, ti dà fastidio, ci entra nelle cervelle, non va bene, capito? Antonio, il discorso è questo, sì che, però non è questo il discorso, una volta si faceva la gara con i vari alimentatori lineari, addirittura gente che metteva anche 1000 watt, assurdo, ma non era possibile che ti disturbava un intero quartiere, ti disturbava, e poi magari aveva anche la faccia tosta di negarsi che non era lui che stava disturbando, dai, erano cose assurde. Oggi invece è diverso, oggi purtroppo, intanto un po' perché siamo agevolati per il fatto del digitale, un po' perché tutte queste potenze nessuno più le usa, eccetto qualcuno che ancora ha la mania della potenza, ma ripeto, a me fastidio non me ne danno, perché io sono un tipo tranquillo e non voglio imporre niente a nessuno, la mia volontà è per me e non per gli altri, ci mancherebbe altro, non vorrei... però è assurdo, guarda, devi solamente riflettere un attimino e pensare a certe cose, vai Vanni. Aspetta che ti rispondo io, ciao Giulio. Io non, l'unica cosa, allora di quelle cose lì non è che mi fa neanche, non ci faccio manco caso, la verità, non ci faccio neanche caso di quelle cose lì, però non mi piace l'arroganza, hai capito? Fanno lo stesso casino di arroganza, allora ma se io mi faccio capire perché ne prende lui, mi dà fastidio. E quello solo, non mi sono mai lamentato io, né delle mutuazioni, non è un esempio, né di quello, né di quell'altro, però non sopporto l'arroganza, hai capito? E tu, è inutile, se io slancio a lui, lo prendi lui, voi non vi sentite, e succede un casino, sono proprio un altro. Io lo so Giulio, ma tu direi dell'esempio. come questo, 300 euro, vedi che c'è anche il peso, no? Da comprare un giocattolino da una radio del genere. Io infatti su queste cose non manca a parlare. Queste le pompe non hanno bisogno di niente, sono perfette in ogni parte, hanno una buona amplificazione, una buona potenza, e invece i baracchini, metti quello, metti l'altro, è saturo, la modulazione, ma vabbè, niente di fissa. Guarda che vuoi fare, purtroppo la gente è strana, io non la capisco. Voglio che assumere, attendere, espandere. Vabbè, dai, ne approfitto, vado subito, devo cambiare e andare a votare. Camperai rientra mia moglie. Sempre che non piova, anche qua mi fa già piovere, ancora. Vabbè, vediamo se questa volta ci ascolta questi politici, ma mi pare di no, siamo un altro buco in lera. Vabbè, io solo con un saluto, buona domenica a tutti, ci sentiamo alle prossime, vi sto ascoltando, eccetera, eccetera. Ciao Giulio, riprendi, buonasera a tutti. Ciao Claudio, salutoni, mi hanno ascoltato. Se non hai niente da fare, se vuoi rimanere a frequenza, sì, ben accetto, come sempre, chiaramente. A tutti volevo dire, tu a Vanino, non lo sei. Ciao Vanino, se stai chiudendo, salutoni, ad esempio. Se tu non lo senti, tu riprendi, lui riprende, diventa un casino. Tutto lì, ma niente di particolare, perché la colpa non è tua, perché se non lo senti, non lo senti, abbatte. Vabbè, avanti, anche saluta Vanino, che forse sta andando via. Vabbè, non ne prende. Claudio, rimani per questa. Sto finendo delle relazioni di lavoro con Giulio. Comunque vi sto ascoltando, buonasera a tutti. Il discorso non fa una piega e pertanto sono solidale d'accordo con te. Beh, semmai se ci siete ci sentiamo dopo e termino questa cosa. Il troppo storpia. I giochi sono belli quando durano poco, quando iniziano a durare molto iniziano a fare errore, quindi a momento di fare poche parole, perché poi si svegliano i cani che dormono, si svegliano le persone che sono diventate brave, che hanno abbandonato le cose cattive, e succede nuovamente il casino, quindi è meglio sempre fare da bravi e continuare a fare quello che stiamo facendo. Va bene, dai, Giulia, a te il microfono e ci sentiamo dopo se coincide. Ok, qua, d'accordo. Ok, va bene, d'accordo, ho sentato. È un piacere di ascoltarti. Beh, certo. No, io non è che voglio, per carità, non voglio io imporre niente a nessuno, però visto che è considerato che abbiamo mezz'ora di tempo e ne discutiamo, ma lo discutiamo per il bene di noi stessi, niente di più, perché se no diventa proprio un casino. E già tutto sommato siamo riusciti ad ottenere un nucleo di persone, una ventina, 30, non lo so di preciso quanto siamo in tutto, così e magari moduliamo in maniera alternata, un po' uno, un po' l'altro, eccetera. E diciamo che tutto sommato la frequenza oggi io la considero abbastanza tranquilla e dobbiamo essere tutti amici, però se dovessimo fare casino, allora siamo peggio dei bambini, ormai siamo tutti adulti, una volta era la scusa che c'erano anche dei bambini, che c'era gente anche maleducata, oggi secondo me non è più così. Devo dire che la radio mi piace, perché però se dovessimo fare argomenti più costruttivi ancora meglio, no? Niente di particolare, ecco cosa intendevo dire. Non voglio ripeto sempre le stesse cose, perché intanto sono cose che ognuno capisce, ognuno sa benissimo, anche più di me. Di conseguenza non è il caso che io mi ripeta più volte. Vediamo chi c'è rimasto, avanti, chi c'è rimasto? Avanti a tu, dimmi. Piccolo, quindi adesso non avevo seguito il discorso, però poco fa ti volevo dire poco fa, aspetta che chiudo la porta, ti volevo dire poco fa che io non mi sono mai lamentato di niente, cioè, perché se tu vuoi la radio là che di là, a me no, magari qualcuno può dar fastidio, a me non mi sono mai lamentato. Magari posso dire basta perché stai strappando e cose, però non è quello il punto. E quando stanno con questa storia, l'altro giorno mi ha dato un pochettino fastidio, dico la verità, con chi sta storia, ti passo a coordinare, ti passo le cose, va bene un giorno, ce la ridiamo, è ok, va bene due giorni, ce la ridiamo, ok, aspetta quattro giorni, grazie, come te ne assistizzate, è quello che mi sta dando un pochettino fastidio, se l'altro non mi lamento di niente. Lamento questa pochettino di cosa che si viene a creare, capito? Beh, quanto non so a cosa ti riferisci, perché io in questo ultimo periodo non sto più accendendo, stavo seguendo di più la televisione, eccetera, eccetera. Tu lo sai, poi già muoio poco. Io quando mi dedico al baracchino mi dedico con l'oretta così, il sabato può essere oppure la domenica, anzi diciamo che in questo periodo sto facendo delle cose anche di sabato e di conseguenza niente non ho più il tempo per potermi dedicare al baracchino. Ma questo ciò non toglie che io abbia sempre una grande passione. Sinceramente io accetto tutto, te l'ho già spiegato poc'anzi, io non voglio imporre niente a nessuno, ognuno fa quello che crede, perché a me non mi interessa, io accetto tutti e tutto quello che si fa e si dice. Quando vedo che le cose stanno andando male, se ritengo che a casa non debba niente sentire niente di quello che si dice alla radio, indosso le cuffie e basta, tutto lì. Però con tutto questo io non voglio né riproverare né fare obiezione e soprattutto non voglio e non sono assolutamente superiore a nessuno, ci mancherebbe altro, non me ne guarderei bene, tutto lì, io cerco di comportarmi in maniera tranquilla e ognuno di noi è responsabile di se stesso, quello che si fa sarà sempre motivo di colpa se uno ne ha o di merito se altrettanto ne ha, tutto lì, Anto, capito, avanti. Buonasera, circolari dalla città di ferro. Sì, buonasera città di ferro. Cappa. No, tutto lì, cioè non hai capito Giulio, non, tu mi hai mai visto lamentandomi di qualcuno per la radio anche di l'aria e cosa? Non me ne ha fatto nulla, cioè. Logicamente se strappi dico che strappi, ti scendi a bomba e ci sei tutto rimbombante. Però devi dirti, cazzo, che fa una radio così, non mi ha mai detto nulla, mai e poi mai, dico solo il difetto che c'ha, però non sopporto le altre cose, visto, e ti basso, va a far corrugnare, boom, va, ti basso, boom, va, cioè non va bene, dai, va bene un giorno, due giorni, e uno se la ride, e si fa un pochettino di risate. Il terzo giorno già comincia già a far fiaco, il quarto comincia a girare le palle, detto proprio per filo e per segno, e quando lì che un pochettino di giorni mi saranno un pochettino fastidio, poi magari è fatto anche così giusto involontariamente, però tanto fastidio. Ehi Antu, sì, ma te l'ho già detto, ognuno pensa alle proprie responsabilità, io penso alle mie responsabilità e tu devi pensare alle tue e così via. Io non chiedo mai un controllo a nessuno, difficilissimo, ma veramente difficile che io chieda un controllo. Perché? Perché so che un buon CB, quando mi sente, se io non sto uscendo bene, la prima cosa che fa, Giulio, guarda che stai uscendo male, basta, tutto lì, e allora si cerca di rimediare. Ma che se continui e con tutto che scendi e ascolta questa radio e aspetta che pongo questo e aspetta che pongo questo microfono e aspetta che attacco questa antenna e così via, basta ragazzi, si può fare. Una volta si facevano queste cose in maniera senza disturbare la ruota, si richiamava per dire Antonio scusami un attimino, ti puoi spostare per cortesia sul canale X? Sì, ecco, si andava lì e uno gentilmente ti va con tutti i controlli, ma non ci si può mettere in una ruota ragazzi, da interromperla per una serie di controlli che a te fanno comodo perché stai facendo dei lavori o perché effettivamente tu non hai altre cose da dire che quello, è tutto lì, comunque facciamo il giro, non voglio far aspettare troppo Alessandro, avanti Alessandro con la buonasera, Giulio che è modulato per te, vai. No. Alessandro? Ma se n'è andato, evidentemente ha avuto qualche piccolo problema. Capito tu, ecco qual è la situazione. Mi chiamo di nuovo Alessandro. Alessandro? E niente, poi si siamo accata la corrente col tempo che sta facendo. Avanti a tu. Ma non c'è Claudio, non c'è nessuno. Claudio da fare, ma sono in quadricci, si ha detto, forse l'ascolto, non lo so, penso di sì, ma tu lo sai che Claudio, per la passione che gli canta, se avesse tempo per poter entrare in frequenza non esiterebbe un attimo, dunque lui problemi non ne avrebbe, poi sa benissimo che è ben accettato da tutti, dunque non è un problema. Avanti a tu. Capo, Vannino. Vannino aveva chiuso, aveva da fare e aveva chiuso. Capo, scusami se ho sovrammodulato, ma io con un bambino, no. Cioè, molte volte lo sento perché c'è il QRM alto. Ho capito, tu non è un problema, figurati, no, ma se io lo lanciavo a lui, cioè il discorso è perché si crea problema, se io lo lancio a lui, lui chiaramente riprende, non mi sentite, riprende anche tu e ecco il caso, niente di più, ma comunque non è un sacrilegio, a tutti dimmi, Antu, va bene ugualmente, non è un problema. E capo, è tutto, già ti sento, sei guarda con lo scala in occhi. Vabbè, tu lo sai, anche tu stai riuscendo molto bene, io a te ti dicevo in questo momento 9 più 5 e dunque non è poco, è un buonissimo segnale, la radio è ottima, perciò chiara, bella, potente anche, tra l'altro considera che l'antenna tua è quella che è, la mia non è che sia delle migliori perché è sinistrata, ma in ogni modo sempre sul tetto, ecco qual è la differenza, tu, niente di particolare, e ripeto, intanto a me sentirmi Santiago 9, Santiago 5, interessante che mi sentano, quando mi sentono bene, che mi sentono chiaro, di radio io sono contento, non mi posso lamentare, anche ieri guarda stavo parlando con la Polonia, stavo parlando con la Francia, dunque evidentemente nonostante che l'antenna sia iniziata esco lo stesso quando c'è la propagazione. L'altro giorno ho parlato con Pinuccetto a Budusò, già te l'hai detto lui l'altro giorno che era stata e te ricordi. E parlare a Budusò con la mia stazione non è semplice, non è tanto semplice, tu lo sai benissimo, con 4-5 watt sì, non lo so di preciso quanto ne ho, con l'antenna che ho, però nonostante tutto mi ha chiamato, infatti mi aveva scambiato per te, cioè aveva scambiato a te per me l'altro giorno, ti ricordi? C'è bella differenza la voce, già. Ma c'è un po' di differenza. Lo so, però essendo lontano, Budusò non è che è lì dietro, io penso che siano un'ottantina di chilometri da Sassari, all'incirca così, e stavo parlando con Gianni di Itti, stavo parlando con lui, poi c'era Nino, anche Nino da Ottieri, e insomma li sentivo tutti e mi sentivano tutti ugualmente, capito? Buonasera dalla città di Ferro. Avanti, adesso ti abbiamo chiamato, cosa è successo? Ciao Giulio, saluto via, mi è sembrato bombo, non vorrei sbagliarmi, mi dovrete scusare ma mi è arrivata nel frattempo, diciamo, mi è arrivata una bassa e quindi ho dovuto abbandonare, quindi scusatemi se mi avete rilanciato, ok, mi prendi giù. Ok, ti risaluto comunque di nuovo, Alessandro, salutoni, ben ascoltato, è sempre un piacere ascoltarti, c'è Bombo, lo sì con me, poi forse c'è qualcuno in ascolto, non lo so, ma al momento ci sono io e Bombo in questi, vai Antonio Bombo per Alessandro. Ciao, saluto Alessandro, a Porto Torre, se mi ascolti. Chiappa di positivo e poi Roger, ciao Antonio, che Bombo. Guarda, riesco diciamo a tirarti fuori diciamo con le pizze, comunque diciamo un po' mezzo QRM, un po' qua, diciamo riesco a tirarti fuori, va benissimo, nel frattempo ero qua diciamo che svolgevo qualche piccola cosettina e facevo un ascoltone, diciamo come abitudine, di solito ascoltare prima di entrare diciamo per capire un attimino il discorso che sia in corso o meno, tutto quanto. Va bene, Giulio, fate il mic. Ok, adesso quello è segno di buon CB perché anch'io lo faccio sempre, io non entro mai in frequenza se non faccio almeno un giro o due giri di ascolto per sentire almeno chi c'è e di quale argomento si tratta, tutto lì, niente di particolare. No, stavamo parlando un pochino un momento fa stavamo parlando, se tu ci hai ascoltato quando c'era Vannino, stavamo parlando dei soliti 40 canali e del baracchino monogatto e io ho sostenuto che non si può confrontare un baracchino con un apparecchio professionale, tutte queste cose qua, insomma abbiamo discusso per un bel pezzo, diciamo, dai, amici con Ovetta, non lo so di preciso, c'era Vannino da Sorso che ci ha fatto una buona compagnia, c'era anche Luigi da Ottava e tutto lì, siamo andati avanti per un bel po', dai, poi per un attimo è entrato anche Claudio per salutarci e questo mi ha fatto piacere, che da tempo che non lo sentivo più, anche perché io ripeto, in quest'ultimo periodo sono un po' pigro al baracchino per vari motivi, che adesso non sto lì a elencarti perché non è nemmeno il caso. Avanti Antonio Bombolo per Alessandro, vai. Vabbè, quando ne hai voglia entra, non c'è problema. Che più di quanto questi apparecchi, e più mi piacciono. Io ho apparecchi anche abbastanza adattati se per quello, eppure me li guardo e mi piacciono sempre di più, potrei anche regalarne qualcuno a un mio nipote lì di Calbugna, tanto è vero, tempo fa gli ho regalato uno di quei microfoni autocostruiti in legno, ma solo che non lo posso mai sentire al baracchino perché lui è a Calbugna, se che ti puoi immaginare se può arrivare qua o se io posso arrivare nella maniera più assoluta, perciò ne voleva qualche altro, sinceramente mi ha messo convinto, adesso quando ritorna qua è capace che me riesce a strapparmene qualche altro di apparecchio antico, perché lui se n'è adocchiato esattamente un Polmar che ha 40 canali sotto, cioè sopra, e 40 canali normali, si chiama 80 canali, un vecchio baracchino Polmar, tutto lì, va bene, adesso avanti. Ok, dai, te lo prendo io. E allora, carissimo Giulio, dopo bisogna contattare il caro nipote, perché il caro nipote va contattato. Ok, penso che questo da parte tua ci sarà senz'altro. Va bene. Comunque Giulio, tornando al discorso in generale, diciamo, e così via, ormai, diciamo, vabbè, capita qualche volta di avere qualche problema e di fare qualche prova, diciamo, per, tu sai benissimo che la 27 è stata sempre, diciamo, un cavallo di battaglia. E il nostro cavallo di battaglia logicamente ha portato sempre, diciamo, ma non da oggi, ma da anni, molti anni addietro, diciamo, sempre di cercare, diciamo, di migliorare la propria stazione, o di cercare, diciamo, di migliorare la modulazione e di migliorare il segnale, e quindi porta, diciamo, sempre, diciamo, a evolvere, anche se poi a fin dei conti sono sempre dei gran denari, diciamo, spesi, e poi, diciamo, il cavolo logicamente non ce l'abbiamo, perché non ci abbiamo reso conto, è soltanto, diciamo, una piccola passione che a noi ci è rimasta, che noi ci abbiamo, portiamo avanti, e quindi diventa, oltre alla passione, diventa uno stimolo, perché cominci a dire, ma dice il tizio, cazzo, esce più bene di me, allora perché non dovrei uscire anche più bene di lui, ma il tizio c'è l'antenna così, cioè, in effetti, ti porta, diciamo, a parte la passione, ti porta, diciamo, a tutto ciò. Poi, all'infuori del comportamento, beh, quella è una base, diciamo, già tutto particolare, perché se uno, diciamo, non ha un comportamento di frequenza e non rispetta, diciamo, il comportamento della 27, allora evidentemente non è più passione, ma è benissimo un strafare. E usare la 27 quando gli capita è strafare, tutto lì. Purtroppo, caro Giulio, non tutti la pensiamo allo stesso modo. Diciamo, qualche volta capita di sbagliare, ma diciamo, anche a me, diciamo, capita. certo, infatti io l'ho detto anche poc'anzi, più volte, abbastanza chiaramente, che io non impongo mai niente a nessuno, ci mancherebbe altro, perché ognuno è responsabile di se stesso, sia nei meriti che nei demeriti. Pertanto io accetto qualunque persona, se poi uno si comporta male è peggio per lui, vuol dire che io me ne farò una ragione e saprò come comportarsi, come comportarmi nei suoi confronti e così via, e penso che così facciano un po' tutti. Di conseguenza io posso solo dire, e questo lo posso dire anche a voce alta, non mi sono mai comportato male in frequenza, anche perché me ne guarderei bene, perché io quando parlo al baracchino so benissimo che entro a casa degli altri e a casa degli altri ci possono essere anche delle orecchie che non accettano magari quello che dico io, allora cerco di comportarmi nella maniera migliore possibile, soprattutto in maniera educata, che quello è molto importante, è alla base di ogni uomo, se poi uno l'educatore la sa usare è per sé, se non la sa usare è sempre per sé e a me non me ne frega niente. Io quando vedo che la baracca sta andando distorta, allora cosa faccio? Indosso le cuffie e via. Se devo subire un qualcosa che non vorrei sentire, lo sento solo io e non do la possibilità di sentirlo a casa, tutto lì. Ma ripeto, con tutto questo non voglio né polemizzare e soprattutto non voglio nella maniera più assoluta che una persona debba essere o debba comportarsi come desidero io. Lui è padronissimo di fare quello che vuole, chiunque lo può fare e chiunque io accetto, niente di più. Avanti Antonio Bombolo. Chiappa. Ma non mi sono mai lamentato, perché sono cose tranquille, perché non c'è maleducazione, non mi interessa proprio, ognuno può fare quello che vuole. Quando c'è la maleducazione allora mi dà fastidio, quando c'ho le parolacce, i rutti, tipo l'altro giorno questo imbecille, il solito portantista, mi ha messo i rutti, mi ha messo le scoregge, tutte quelle cose maleducate, facendo lo scemo, prendendo per il culo a tutti. E quello lì mi stava già facendo alterare, incazzare, era qua in zona, era. E dopo me ne sono accorto che era qua in zona. Ma si è attento lui. Ho creato, ma io perché sono sempre, io ho sempre detto, già da un po' di tempo da questa parte, tu non immagini nemmeno quanto io sono contento del baracchino, e ti spiego il motivo per cui io sono contento. Io ho avuto modo di contare tutte le persone che fanno attività radioartistica in alte frequenze, cioè radioamatori. Uno di questi tra l'altro è anche Alessandro, ad esempio, è un neopatentato. Dunque, e io ho contato addirittura in questo ultimo periodo 12 persone che sono entrate in 27, e questo ti posso garantire, a me mi fa immensamente piacere. Perché? Perché so che un radioamatore già per natura si comporta in una certa maniera. Dunque ben venga l'insegnamento da parte di queste persone in 27, perché c'è sempre da guadagnare e mai da perdere per quanto riguarda la situazione e il comportamento CB, capito? Perciò quando io sento persone che hanno la patente rianimatore che entrano in 27, io sono contentissimo, guarda, un po' perché trovo i vecchi amici, visto considerato che io sono vecchissimo della frequenza, forse sono il secondo attualmente, perché prima di me penso che ci sia solamente 27, io parlo di 27, solamente Gio Maria, poi tutti gli altri sono un pochino dopo di me, ma questo ciò non toglie che i vecchi amici io non li ascolti molto, ma molto volentieri, tutto lì, sicché quando entrano i patentati, per me è un grande piacere, guarda, ti posso assicurare questo. Avanti adesso. Non c'è bisogno di avere un comportamento corretto o di aprire un discorso o di avere la passione di frequentare, la 27, essere un patentato radioamatore. Penso che questo non voglia farti capire che ti devi comportare in una certa maniera. del sabbia, certo, l'ho sottolineato tante volte nel corso di questo facendo da oltre un'ora, che ognuno di noi è responsabile di se stesso, e dunque non mi sembra che, però come appunto dicevo, io accetto chiunque nella maniera più gentile possibile, e ci mancherebbe, soprattutto nella maniera più onesta, senza andare a creare né provocazioni né soprattutto dispetti da parte di magari di portante, eccetera eccetera. No, non me lo sogno nemmeno, non è il caso, perché sarei un deficiente a fare certe cose se dovessi fare una cosa del genere, perché andrei contro il mio stesso interesse, perché visto e considerato che io vivo in frequenza da 40 anni e oltre, allora non ne vedo la ragione per cui io un domani così di punto in bianco mi salta in mente così una azione sacerdotica e mettere la portante. E sarei un deficiente, io mi sento di essere così allora in quel caso, perché se io sono riuscito a resistere tanti anni in frequenza, che cosa significa? Significa che ho una certa passione, ho anche un certo interesse, ma se io questo interesse poi me lo bruciassi con le portanti o con le ingiurie o con i dispetti, allora valuta tu cosa sarei, non te l'ho già detto, sarei un grandissimo imbecille, un grandissimo deficiente, tutto lì, capito? Avanti Antonio Bombolo. Non mi sono mai piaciute, io preferisco fare le radio anche se mi hanno accusato, mi hanno dato delle accuse, ma comunque da parte di una persona, io l'ho saputo, no, ma comunque si attento come parli prima di dire le stronzate, così lo dico qua proprio per farglielo sentire, ma lasciamo perdere. Tu non lo sai Giulio, ma io ho saputo da persona che io sono stato accusato che mettevo la portante. E tu, cosa vuoi che ti dica? Sempre quello della vita a me non me ne vede niente. Ognuno può aver detto male di un altro, perché no? Questo è scontato, perché tu credi che io non penso che ci siano delle persone che abbiano detto male di me o che ne dicano ancora. Io no, questo non lo escludo, vorrei vedere, però quello che conta è il mio animo, il mio modo di pensare e sapere di essere tranquillo e in pace con me stesso, che il comportamento che io metto in pratica è quello che secondo me si deve fare, cioè non rompere le scatole a nessuno e soprattutto rispettare il massimo rispetto per chiunque, dal bambino all'uomo di 90 anni, tutto lì, niente di particolare. Perciò tu non ti meravigliare, tu devi andare per la tua strada e cercare di comportarti bene, basta, tutto lì, sei tu, ripeto, responsabile di te stesso, come ho già detto più volte nel corso di questo nostro QSO. Avanti adesso. Salvarmi quelle poche che ci rimangono. certo, sì, indubbiamente, adesso, certo, tu pensa che io tutte le volte che incontro qualche vecchio CB che aveva prima contatto con noi, così, frequente, eccetera, cerco di farlo rientrare sempre in frequenza, perché ne parlo bene, non c'è da dire, dice no, ma lì c'è una porcheria, guarda che non è più come prima, guarda che oggi il numero delle persone è ridottissimo, siamo tutti amici, ci comportiamo bene, ci trattiamo bene, siamo rispettosi l'uno dell'altro, ma no, non mi convince, perché dopo la settimana ci ripenso. Ecco, queste sono le parole che la gente mi dice, anche perché da me, non so se tu lo sai, vengono tantissime persone, tutti quanti parlano, io accetto tutti perché non mando via nessuno, ci mancherebbe altro, ognuno dice la sua, poi naturalmente ci sono anche quelle persone che criticano l'amico, io cerco di buttare acqua sul fuoco proprio per non mandare avanti un certo discorso, ma c'è qualcuno che magari insiste, però da bocca mia nessuno mai ha avuto un riferimento di quello che mi hanno detto magari certe persone nei confronti di altre, no, perché io lascio sempre che le parole si portano via al vento, di conseguenza non è bello, non è nel mio costume andare a creare disdain, soprattutto come già detto sarebbe controproducente per chi ha la passione per il baracchino e per la radio in generale. Allora io quando a me mi dicono una cosa l'ascolto, non la tengo per me, non vado a riferirla, e ti posso garantire adesso che da me vengono un po' tutti, quasi tutti i giorni, ci prendiamo il caffè indubbiamente, ci prendiamo un'aranciata, insomma qualcosa del genere, e ci sono delle persone che alle volte si trovano anche lì, 3-4 persone anche, e io non mando via nessuno, perché devo dire che non mi disturbavo nemmeno, perché a me le persone mi piacciono, soprattutto gli amici, quelli sì, naturalmente, se poi io ritengo che una persona non è sì, allora non glielo corda, e ti posso garantire che in maniera molto, ma molto diplomatica, quando si allontana e non si fa più vedere, al limite quando ci vediamo, ciao e basta, tutto lì. Ecco, capito, e a questo punto è così. Vai a tu. Giappa. Mai. Cos'è perché tu non coincide mai, Ok, c'era qualcuno di propagazione. Sì, lo so, ma abbiamo avuto anche modo di incontrarci o delle volte, non è più successo, perché magari vuol dire gli orari non combinano, eccetera, eccetera, tanto ci conosciamo lo stesso di persona, ma io con te non ho mai avuto niente, tu non hai avuto mai niente da parte mia, dunque mi sa che la cosa funziona alla grande, niente di particolare, perciò tutto lì. Va bene, avanti. Ok, non so se c'è qualcuno che vorrebbe entrare sul canale 10, adesso non vorrei sbagliarmi se è questione di propagazione, ma non mi serve una questione di propagazione. Avanti, chi vuole entrare? Non vuole entrare nessuno, comunque ci sono alcuni passaggi, giuro che li ascolto molto male, perché mi sembra strano che sia questione di propagazione, a poco. Lo so, sai cos'è? Che c'è molto QRM, perché qui ad esempio sta anche piovendo, dunque sarà per quello. E poi c'è la propagazione, c'è un po', io sento un po' di propagazione che alle volte si sovrappone, ma capisco benissimo, è propagazione e basta. A parte il discorso che un po' anzi mi era sembrato qualcuno anche a me che volesse entrare, invece in realtà era solo propagazione. Ok, riprendi e dimmi se mi hai ascoltato bene, vai. In questo passaggio si è passato tranquillamente, no, ma poco fa, vabbè, potrebbe essere anche, diciamo, questione di propagazione. Va benissimo. Va più che bene. Vabbè, comunque, il discorso è sempre quello là, caro Giulio. Noi ne possiamo parlare fino all'infinità, fino all'esaurimento, però diciamo il discorso è sempre quello là. Tu figurati che io... settimana fa io avevo spostato l'antenna pensando ai soliti, diciamo, soliti esperimenti che si fanno sulla rete 7, ho spostato l'antenna in un altro punto per vedere un attimino il suo comportamento, diciamo, e così via. E poi alla fine, diciamo, mi sono accorto che dove l'avevo messa era stato l'unico suo punto migliore. Da quando ho spostato l'antenna è successo un po' da che ho incominciato, diciamo, mi prendo il televisore, mi dissolvo il televisore, questo e quello. E diciamo che c'è stato quasi una settimana di paraonde. Allora, pensate che, diciamo, immaginate quanto ho dovuto studiare per spiegare, diciamo, che il problema, diciamo, non era dovuto da me, ma io logicamente prima mi sono asciattato al 100%, e ho verificato, diciamo, il quanto, ho verificato che le antenne, diciamo, di chi si lamentavano, le antenne, diciamo, già marce, il miscelatore, diciamo, era già andato, l'amplificatore era già andato, comunque ho avuto un po' a che fare, poi però nel mio ho detto sono in regola, sono tranquillo, quindi diciamo non ho niente da perdere. E addirittura qualcuno mi è venuto dietro a dire che la 27 era la stessa frequenza, diciamo, della RAI. Per dirti un attimino, la gente ormai a che punto è arrivata? Sì, ascolta, Alessandro, non è che esattamente sia la frequenza della RAI, però diciamo che i multipli della nostra frequenza combaciano con quelli della RAI, ecco, forse non te l'avevano spiegato bene. Ripeto, praticamente noi 27 MHz combaciano con i 54 MHz della RAI, tutto lì. Siccome adesso cosa è successo? Che la RAI è tornata in VHF, a differenza di quei giorni scorsi che era in UHF, adesso è tornata di nuovo in VHF, e allora bisogna prendere tutti gli accorgimenti che si prendevano una volta proprio per cercare di evitare queste interferenze, eccetera, eccetera. Mentre invece negli altri canali è tutta una diversa frequenza, e allora non ci sono problemi. Però sulla RAI ci possono essere dei problemi. E tu mi insegni che la RAI ha sempre ragione, non so cosa dirti, Alessandro. Bisogna appunto cercare allora di risolvere il problema e fare di tutto, di tutto per appunto evitare che si possano verificare questi inconvenienti, tutto lì. Ripeto, è un multiplo della nostra frequenza che si adatta perfettamente alla frequenza della RAI, ecco, tutto lì, avanti. Ok, no, vabbè, ma diciamo di questo ne sono consapevole, io sono consapevole, diciamo, che la 27, diciamo, la banda, la 50 e quant'altro, diciamo, si avvicina alla banda della RAI, questo lo sapevo già benissimo, però scusa, arrivato a un certo punto, se io ti vado a dire, ma non è che ti vado a dire per cercare che io mi voglia scantonare, che io il problema sia mio e che voglio farti credere per coprirmi le spalle, cioè farti capire, dirti che c'è un'antenna che c'ha 10 anni, che c'è un amplificatore di tutto a quel paese, che c'è il cavo tutto ostinato che entra nell'amplificatore, che il tuo segnale di recezione invece di essere al 100% ce l'hai al 50%, questo mi sembra che non ci voglia una laurea per dire. Io so, capito già in partenza, che se vado a usare non più i 5 watt, se vado a usare oltre i 5 watt, vado a usare un mic amplificato dove mi crea, diciamo, la modulazione me la amplifica, mi crea più armoniche, mi crea più potenza, e poi ci aggiungo alta potenza sotto, questo so benissimo che vado a disturbare, diciamo, i canali RAI, perché sto andando, diciamo, a comprimere, e quindi non posso garantire che che, lo so, diciamo che, se dovessimo cercare di dividere le colpe di uno e dell'altro, o meglio del trasmettitore e del ricevitore, diciamo che in linea di massima ci sono colpe di almeno il 60% per il ricevitore e il 40% del trasmettitore, il che significa che non è escluso che si possa anche interferire, certo, però ripeto, come ho già detto, in linea di massima è sempre da parte di chi riceve. Allora, amplificatori, antenne marce, cavi ormai ossidati e tutte queste cose qua. Naturalmente anche noi dobbiamo fare la nostra parte, diciamo che bisogna collaborare da una parte e dall'altra, ci mancherebbe altro. Noi dobbiamo utilizzare intanto le potenze consentite, allontanare il più possibile la nostra antenna dall'antenna TV, utilizzare possibilmente cavi a bassissima perdita, ma proprio a bassissima perdita, perché tieni presente che le spurie principalmente escono fuori proprio dal cavo di trasmissione, carissimo Alessandro, e dunque sono oggetto di interferenze molto molto di frequente per vari motivi. Intanto perché i cavi scendono in una determinata posizione dove ci sono fili di TV, fili elettrici e tutte queste belle cose qua. Sono delle cose che poi, messe tutte insieme, fanno sì che creano uno scompenso al ricevitore, e allora ecco che la colpa è sempre la nostra. Purché alle volte la colpa invece parte più da loro che da noi. Ecco qual è il discorso, Alessà. Facciamo venire avanti Antonio, dai, se no si stanca, se ne va. Vai tu. Televisioni che non valgono a niente, che hanno delle cose al dentro che, per carità, io ne so qualcosa, ne so, perché allora il mio non fa niente, quell'altro grande che di babbo non fa nulla, non dà nessun disturbo, l'altra più piccola rompe le palle quando sto usando paracchini tipo questo, un pochettino più alterati. Ma la maggior parte delle volte di questi disturbi sono anche le cose che non valgono a niente, non valgono assolutamente a niente, proprio, cioè, le cose le fatte in Cina, proprio di chi si arroba, cioè, che vanno o non vanno, cioè, perché io ti faccio, accendo la mia ed è perfetta, proprio, no, non fare una grinta, e accendo l'altra è perfetta, accendo vista, è già cominciato a tremurare. Lo so, tu sai cos'è? Che solitamente il nostro segnale entra sempre nella media frequenza della televisione, no? Ed è quello il motivo per cui appunto si verificano poi tutte queste interferenze. Dipende anche dal televisore, certo che dipende dal televisore. Se un televisore è filtrato bene, questi scompensi non ci devono essere, ci mancherebbe altro, però ciò non toglie che noi dobbiamo sempre prendere le massime precauzioni, sia noi che anche loro. Non è detto, perché tu lo vedi bene ugualmente un televisore, però hai un'antenna che ce l'hai 10 anni o 20 anni installata con un cavo tutto secco, con tutto ossidato, che la colpa non dipenda proprio dal tuo impianto di antenna, dal tuo televisore, è quello il problema. Oppure che hai l'amplificatore, che in regola di legge non lo devi nemmeno usare l'amplificatore d'antenna per la televisione, tutto lì. Casomai dovrai, se per caso hai scarsezza di segnale, utilizzare delle antenne con un guadagno superiore, con un cavo che abbia una bassissima perdita, proprio per evitare tutti questi inconvenienti, perché un certo numero di dB possono essere perduti anche tramite il cavo, oppure tramite un'antenna scadente, un'antenna che a un certo momento è un pezzo di fil di ferro sul tetto, tutto lì. Avanti adesso. Ok, dai, ok, ne approfitto a salutarvi perché ho delle visite. Va benissimo, Giulio, dai, ok, fatto piacere, diciamo, fare un bel discorso stasera, dai. Va bene, ciao Giulio, buon proseguimento. avanti Giulio per Sandro. Ok, ok, Anto, ciao Sandro, grazie per il QSO, alle prossime, speriamo presto, è sempre un piacere ascoltarti. Avanti il break per Alessandro, se lo vuoi salutare sta andando via, vai. Beh, sono entrato soprattutto per quello. Ciao Sandrino, ben sentito, buon quell'entità, ci sentiamo alle prossime se coincide. Ciao Giulio e ciao al Mongolo, dopo per parte anche da loro. Scusa Giulio, scusa le tue messe di reazione. Bombolo, caro Antonio, io ti conosco in frequenza e ti conosco verticalmente, però fammi un favore, esci come madre natura ti fa uscire. Ma me stai dicendo? Stai dicendo? Quello lì è Antonio Grotte, non Antonio Bombolo. Scusami Bombolo, e ha riferito Antonio Grotte, con buonasera. Buonasera a voi. Perché cosa c'è di diverso dalla verticale? No, c'è di diverso dalla verticale che mi hai un attimino escogitato, diciamo un qualcosa. Siccome a breve tempo abbiamo una festa poco povera, a fine mese, ecco quello tipo di modulatore, potresti fare un qualcosina. Salutoni, ben sentito da parte mia. Va bene così, lo sai che così ci sono apparecchiature filtrati meglio di altri, e allora ecco che si spiega il tutto. Avanti Antonio Grotte. Stato di Roger, ricambiato al centro Giulio, e niente, mi sono appena svegliato, quindi scusate la voce da bassa modulazione, dai. E niente, purtroppo noi soffriamo sempre di un certo ostracismo nei confronti delle persone che si comprano gli apparati che non, o meglio gli apparecchi che non funzionano, che sono cineserie, e dopodiché si lamentano che noi gli entriamo, quando poi la colpa è veramente loro che hanno speso poco e vogliono pretendere molto. No, ma io da noi è cineseria, no? Già lo sai che cosa è. È ben schermato, c'ha un audio che non è paragonabile, cioè ad altri io non la paragono, ne ho sentito altri, ma cioè, ha un audio molto particolare. Chi sa la musica e riesce a capire la musica lo sa che cosa vuol dire. Vabbè, io devo dire la verità, a livello di cultura musicale non ne ho molta, però sicuramente è normale che un paio di casse facciano da antenna. Sicuramente Giulio si ricorda come si fanno le radio a galena, basta un avvolgimento in rame e dopodiché un paio di componenti per costruire una radio, quindi è normale che a seconda della potenza con cui esci le radio, ma le casse facciano da radio ricevente, di conseguenza trasmettano il suono di un'emittente vicina. Questo manco attaccando l'amplificatore, nulla, però sempre lì, cioè non si sente niente proprio, ma cosa vuol dire niente? C'è una schermatura allucinante già. Ok, riprendo io. Sì, Anto, ce l'ho, la radio galena, ce l'ho. E tutto l'altro giorno, adesso la voglio togliere, sono messo le cuffie e l'ho ascoltata. Già si sente. Addirittura come antenna ho attaccato l'antenna del baracchino e ho visto che si sente abbastanza. È una cosa che io ho costruito da tantissimi anni. Anzi, ti voglio raccontare una cosa. Una volta, quando abitavo nell'altro appartamento, in un'altra casa, la sera c'era la partita, eravamo sempre di domenica sera, c'erano le partite di calcio. A un certo momento purtroppo mancava la luce, e io avevo le cuffie e stavo ascoltando la partita proprio con la radio galena, no? Siccome a casa c'era della gente, c'era degli ospiti, e quando ha segnato la Juventus, a un certo momento ho esultato un po', come per dire bello, capito, e così via, 1-0 ho fatto. Quelli mi hanno guardato tutti quanti in viso così, ma questo è scemo. E mia moglie, ma guarda che sta ascoltando la radio. Come sta ascoltando la radio? Sono la luce corrente, sì, ma lui ha la radio che funziona senza la corrente elettrica e senza la batteria, senza niente. Avevo collegato come su di terra al rubinetto, l'avevo attaccato come su di terra, perché quello è molto importante, se è una terra efficiente riesce ad ascoltare ancora meglio. E come antenna usavo sempre l'antenna del baracchino e via. E appunto l'altro giorno sono salito in massardo, ho aperto uno scatolone, dopo diverse apparecchiature, l'ho tolto a fuori, me lo sono portato giù e l'ho attaccata e funziona, altro che se funziona. Guarda, tu immaginati che ne ho costruito una con un rotolo di carta igienica, l'anima del rotolo, quello del pezzo di cartone che c'è internamente, dove ho fatto l'avvolgimento, e dopodiché come sensore ho utilizzato al posto della galena una lametta arrugginita con un pezzo di matita di grafite per rilevatore, capito? Sì. No, io ci ho messo proprio il diodo, ci ho messo il condensatore variabile, quello a lamelle, quello di una volta, ma diciamo ne ho costruito tante. Aspetta che una volta in falegnameria, discutendo così proprio di queste cose qua, uno ha fatto, voi scommette che ti costruisco la radio qua adesso davanti a te? E avevo delle cose, avevo un po' di componenti, e avevo un condensatore variabile di un transistor, di quelli a mica addirittura, non di quelli a lamelle. E poi avevo un bio, ho preso la tavoletta e ho cominciato, avevo tutto, insomma, che c'era un periodo che facevo tanti lavori anche per gli amici, eccetera, no? E lì per lì ho costruito questa radio, questa è una radio, vai, ci me la metto questa radio, sopra un pezzo di tavoletta di legno, così, ma cosa vuoi scommettere? Io te la faccio ascoltare, però scommettiamo il panino imbottito tutti i giorni per una settimana, avanti d'accordo, dai, facciamo. Allora ho attaccato, ho preparato tutto, sono antenne eccetera, e mi ho fatto ascoltare, guarda che qui vicino accanto a me c'è un ossigeno alimentare, vai a fare il panino per me, per te, per una settimana intera, e così è stato, e poi l'avevo regalato a mio fratello che è lì vicino, che lui aveva un'altra attività, era andato in giro per i suoi amici e anche lui scommetteva a panino imbottito. Quando vedevo questa tavoletta, vai, cosa radio, ti faccio sentire la radio, e se devo l'attacco, no, non c'è niente bisogno di attaccare la sua parte, niente batteria, niente corrente elettrica, e così via, avanti. Esatto, ma l'unica cosa importante è avere delle cuffie ad alta impedenza, e vanno bene quelle delle telefoniste della SIP, quelle vecchie, che sono in bacchilitte. Scusami un attimino, mi sta arrivando una bassa, scusami. E infatti io ho quelle cuffie lì, quelle in bacchilitte, ce le ho proprio da 2000 ohm, si può immaginare l'impedenza, perché l'impedenza ci vuole un'impedenza molto, molto alta per poter sentire, se no in altoparlante no, non è possibile, in altoparlante ci vuole l'amplificatore, ci vuole. Avanti Antonio Bombolo. Gaffa, ho sentito che sei interista. Juventino. No, io faccio tipo per la Juve, ma non sono un esaltato, non sono un fanatico, se vince mi fa piacere, ma se perde non me la prendo più di tanto, e se vince non mi esalto e non salto e non mi tiro la testa al muro come fa certa gente, no, nella maniera più assoluta. Quando segna la Juve io seduto solo in poltrona tranquillo rimango, senza andare in escandescenza e quante base dei taglienti, che un giorno andò lì, ero nel bar di ai punti, nel bar di Palmisano, ex Palmisano, tanti anni fa, un ex giocatore da Torre, aveva un bar via dei punti, no? E dunque davano le partite in televisione, mi sono stato e c'era proprio un giorno, c'era Juventus Inter, a fianco a me c'era questo tipo, guarda, come ha segnato la Juventus, si è alzato, ha dato una manata a una colonna centrale che c'era in questo bar, ma si è fatto, questo qui è pazzo, come minimo questo si è fratturato la mano, dopo l'indomani sono visto che era con la mano fasciata, che bello imbecille tra me, ho pensato, bello imbecille questo, che per il calcio si fa male, non è possibile. Capo, no, io già ti chiedo. Mamma mia, cazzo, speriamo stasera che vada tutto bene. È dura, eh. Lo so che è dura, lo so, molto dura. Io sinceramente del Cagliari ho sempre avuto paura, ma non quest'anno, ma in tutti gli anni, perché diciamo che tante volte gli ha fatto il gambetto il Cagliari alla Juve, ma io mi auguro invece che vinca la Juve per vari motivi, intanto perché è prima classifica, secondo me merita il campionato, e secondo perché il Cagliari ormai è salvo, sì, che non, anche se vincesse non avrebbe niente di guadagnato, ormai è salvo e basta, tutto lì. Saranno, non la penso così o no? Sai che io non sono juventino, io sono cagliaritano, sono, e tipo anche il Milan, ti puoi immaginare? No, io tipo la Juve e basta, io simpatizzo per la Juve da sempre, da quando ero piccolino, e dunque sono rimasto fedele e coerente con le mie idee e con le mie passioni, dunque no. Poi naturalmente se il Cagliari si salva, anzi sono ben contento che tutte le volte, tutti gli anni il Cagliari si salvi, anzi ero contentissimo anche l'anno del 70 che aveva vinto il campionato, ti puoi immaginare se non ero contento, la squadra salve che aveva vinto, però ti posso assicurare che oggi spero con tutto il cuore che vinca la Juve, così, la Cavani e Lomachini portano il capo ai Lombardi, ai Milanisti e ai... Ecco, ripreso. Cosa hai detto tu? Ripreso, ma c'è una portata. te ne prendi gode. Ma sai che per fare un condensatore variabile ad aria basta per simulare uno alla melle bastano due piatti di plastica su cui attacchi su ogni faccia un pezzo di carta stagnola e colleghi i fili e dopodiché li fai scorrere uno dentro l'altro. Io ti do quelli per fare le radio a galena improvvisate. Ma cosa cavolo stai usando? C'è un bel forte qua. No, sono liscio. Liscio, liscio, perché? Oh, io ti sento fortissimo, ti sento. Ma a casa sei? A Pariogero? Certo, dove sono? Tu sei quanto è Giulio, sei quasi a fondo scala qua, Non lo so, io lo passo sempre, lo passo. Ti ripeto, ci sono le condizioni meteorologiche buone, non so cosa dirti, perché davvero sto uscendo liscio, liscio. Non so quanto arrivi da giù, no, una cosa che volevo precisare così, perché mi sono accorto che sei molto forte qua. Chiappa, riprendi Giulio. Ok, sì, sta uscendo molto bene, di segnale, anche di radio, non ci sono problemi. Sì, beh certo, tu, lo so. Si tratterebbe anche di avere fortuna, addirittura anche senza il condensatore, mettendone uno, ma di un valore che appunto riesca a centrare una certa frequenza, potrebbe funzionare, anzi funziona di sicuro, però si tratta di stabilire il valore giusto, perché il condensatore è variabile, tu lo sai benissimo, non è altro che un condensatore è variabile, ma se tu ne avessi uno fisso di condensatore, di quel valore appunto che si riesce, sarà una cosa quasi impossibile riuscire a indovinare il valore necessario per poter sentire le 1, 2, 3 stazioni al massimo, perché con la radiovalena più di quelli non senti 1, 2, 3 stazioni, io riesco a sentire qui a casa mia, dipende anche molto dalla posizione, riesco a sentire io il primo, cioè Rai 1, poi sento anche Radio Monte Carlo, sento, anche se leggermente più basso, e poi sento anche Rai 2, perciò vedi bene, se è questione anche di posizione, perché trattandosi di un apparecchio così, comunque ho avuto modo anche di attaccarlo ad un amplificatore e diventa proprio una bomba veramente, mi spiego bene. Allora io qui a casa ho un organo che ha tutta un'amplificazione, e io lo avevo adattato e attaccato lì, e dunque facevo sentire questa radiovalena dalle casse dell'amplificatore dell'organo, perciò tu puoi immaginare, ci sono tante cose, tanti giochi che si possono fare. Vai Antonio Grode. Sì, io utilizzavo quando non avevo voglia di mettere le cuffie, perché poi sono un po' fastidiose con le macchinette. Utilizzavo un amplificatore del computer, le due cassette, e usciva da bene. Io ti dico la verità, il condensatore non ne ho mai messo, e sono andato sempre liscio e prendevo una sola stazione, che poi è Radio 1, capito? Radio Serie 1, e basta. Solo quella lì. Dopodiché qualche volta riuscivo a prendere radio francese, ma secondo me quando facevo lunga l'antenna, capito? E comunque no, è bella da fare, è divertente, dai. Secondo me è istruttiva anche per i bambini, se gli vuoi insegnare qualcosa di che si può costruire con poche cose, che gli stimoli la manualità. Riprendi Antonio Bombolo, ma tu ti favi il Napoli, Antonio? Napoli! Perché io ti purgare, no, è Napoli! Anche napoletano troppo. Perché io non ridino così li cagliai, perché guarda, evidentemente è una passione, però dovresti essere torresino. Non sono mai stato, io torresino non è che sia mai stato. E poi la torre cosa ha fatto? Regione, però non è che una la passione per a seconda di quello che ha fatto. No, siccome ti piaceva quello, come si chiama? Nino D'Angelo, ho sentito che ascoltavi le canzoni di Nino D'Angelo, quindi pensavo fossi per il Napoli. Pagando! E tu capo di Nino D'Angelo, e tu come l'hai sentito qui ascoltato quella musica? la buffoneria, io altro che sto scherzando. Avanti break. Avanti break. E beh, prima fare break e buono niente, vabbè. Ti volevo dire Antonio Globe, io ne ho fatto tanti esperimenti, non ho fatto solo quello, ho fatto qualcosa di più importante, di più serio. Io ho costruito delle radio a onde lunghe anche, ho costruito anche delle radio a onde medie, ho costruito una volta una radio a reazione, quella è tremenda per quanto riguarda, altro che baracchino e disturbando, ti posso garantire che tutto un padiglione attorno a dove, da dove abiti non vedi più niente nessuno, perché la reazione nel nostro tempo riceve ma trasmette anche, perciò interferenze a non finire. Poi adesso ti potrei raccontare una storia, ma comunque la lasciamo perdere. Vai, avanti Antonio Grotte. Ciao, ma però così mi incuriosisci, aspetta che facciamo riprendere anche le bombe, riprendi anche tu. E scappa, incuriosisce pure a me, perché imparami a farlo. Tu, non è così semplice, imparami a fare, insegno, credo mai te lo insegno, non te lo imparo, te lo insegno. Beh, ma a parte quello, sì, è un'apparecchiatura, è una radio ricevente, no? Allo stesso tempo, siccome è a reazione, trasmette anche, capito? Allora ti spiego, nel primissimo periodo che io avevo installato, allora abitavo in un altro posto, non abitavo qua, avevo installato una Grand Prix sulla ringhiera del poggiolo a casa, no? Da quel preciso istante, senza nemmeno utilizzare il baracchino, già tutti si sentivano disturbati, eccetera, eccetera, no? Allora era in voga il discorso, il baracchino disturba, eccetera. Beh, arriviamo al periodo delle ferie, arriviamo. Io dicevo, guardate che non sono io, che io non sto disturbando nessuno, addirittura mi incolpavano di disturbare quando io ero al lavoro, che non ero a casa, ti puoi immaginare. Arriviamo al periodo delle ferie, nel frattempo io avevo costruito questo ricevitore a reazione, ho detto, bene dai, adesso li sistemo io. Me ne sono andato in ferie, me ne sono andato e l'ho lasciato attaccato, l'ho lasciato questo affare qua. Da quel preciso istante non ero più io, perché dicevo, no, non c'è, non sono i figli, sono fuori salsa li sono, e io avevo attaccato il ricevitore a reazione e disturbavo tutta la palazzina, non solo di disturbare quello che si lamentava sempre, tutta la palazzina dove abitavo. E tu vedrai che da questo momento non sono più io. Beh, sono rientrato a casa, non ero più io, Antu, me l'hanno raccontato, sai che hai ragione, tu non c'eri, la televisione c'era questo disturbo, avevano chiamato anche il radio tecnico, avevano chiamato per controllare l'antenna, eccetera, eccetera. Nel frattempo sono arrivato anch'io, intanto nel frattempo mi ho attaccato, quello là magari faceva lavorare l'antenna, tutto a posto, non ero più io, Antu. Grappa. Perché ci ho rotto il ballo di scatole, cosa succedono queste cose? È un macello, stai parlando di 30 anni fa, così è. Sì, all'incirca una cosa così, all'incirca una trentina d'anni, forse anche di più. E, ripeto, è una radio, un ricevitore, una radio a onde medie che riceve, però nello stesso tempo trasmette anche, no? Però trasmette talmente tante di quelle spurie che tu non hai idea. Altro che baracchino, ti posso garantire che andate a Giubbato, me l'hai attaccato all'impianto, siccome dove abitavo io c'era l'antenna centralizzata, ce l'ho attaccata all'antenna centralizzata, boh, avanti, oscuro, voglio oscurare tutto il palazzo, e così è stato, me ne sono andato in figlio, gli ho lasciato per più di una settimana questa fare inserito, tutti quanti avevano problemi di televisione, perché giustamente c'era questo problema qua, capito? Ma tu, è servito, guarda, perché prima ti posso assicurare che mi stavano rompendo le scatole. Ripeto, io non c'ero a casa, quando era lavoro, io che disturba, invece non era vivo, era un'antenna ricraziata sul tetto, che poi tra l'altro era un'antenna condominiale, no? Mentre invece io a casa mia avevo il palo per l'antenna mia personale e in punta ci avevo messo la Grand Prix, sicché io ero tranquillo, perché avendo la Grand Prix nella stessa antenna, dove c'era la stessa antenna della televisione, ero tranquillo, non mi disturbava niente, mentre invece loro dicevano che ero io. No, guardate che l'impianto del condominio che non funziona, e così è stato. Perciò allora ho scogitato quel sistema, ripeto, da quel preciso istante non ero più io. Avanti Grode. Chi è che vuole entrare? Un attimo di bianco, guarda, devo andare così a Can Piccolo a vedere una cosa. Riprendo fra un pochino. Devi andare così a Can Piccolo, devi vedere una cosa piccolina. Chi c'è gente da Madura? No, devo vedere un'altra cosa. Stai andando a guardare dal buco della serratura tu. Certamente, ui. Ma chi è? Ogni tanto sento una portantina che cerca di entrare, non capisco chi sia. Avanti. Ma io, portante ribelle, chi sei? E mi sa che non è voglia, là. Se era una portante, a meno che non era propagazione, capito tu, il discorso è questo. Ripeto, io l'avevo messa, la rete valena l'avevo messa, intanto l'avvolgimento l'avevo fatta, della bobina l'avevo fatto su un pezzo di tubo PVC da 4 cm di diametro, l'avevo fatto, adesso non mi ricordo quante sfide avevo messo, dopodiché avevo fatto le prime sfide, un occhiello, due occhielli, tre occhielli, e poi avevo continuato con le sfide, poi con gli occhielli mi sono serviti per trovare la risonanza migliore, ripeto, ma è una cosa semplicissima, tranquilla, no? Non ci sono problemi, chiunque lo può fare. È portato una buona massa, come hai detto tu, è una buona antenna, eppure in questo continente qua. Aspetta che c'ho uno, troppo è. Mi si girano le rotelle, aspetta un attimo. Stavo dicendo, è importante avere una buona antenna, poi in questo QTH qua, considerando che c'è la torre dell'Enel vicino, mi crea abbattimento e non si sente minimamente nessun tipo di segnale, capito? Abbatte i segnali di radio stereo 1. Certo, e quello è importante, quello è importante, tutto è importante, bisogna vedere anche nella costruzione dove abiti, la quantità di ferro, tante cose, perché il ferro è tremendo, ti mangia il segnale così come se niente fosse. Ripeto, a secondo della posizione dove ti trovi puoi sentire anche tre stazioni, perlomeno io qui a casa mia ne riesco a sentirne tre. E allora, ripeto, con l'antenna del baracchino, con l'antenna del baracchino. Con un bel filo lungo per come filo di massa, perché ci vuole quella, se no niente da fare, se no non senti niente, capito tu? È importantissimo, ripeto, dipende da dove sei, perché in ogni posizione della città c'è un tipo di segnale, è chiaro, e allora quello è importantissimo. Vale, Roger, scusa un attimino, c'è una bassa. Come? Ok, avanti a tu, Antonio Bombolo. Papa, non sai che io dico, ecco cosa sono andato a fare. Mi prendo una cosettina mia rimaniata, il pane col sugo, appena appena l'ho messo. A fare il rifornimento sei andato, d'altronde, se hai appetito perché no, ci mancherebbe altro. Va bene, così ti stavo dicendo tu, allora stasera fa una cosa, siccome tu non ne hai necessità e il Cagliari non ne ha bisogno, fai tifo per la Juve, prega per la Juve, tu, Ma lo faranno, è come che sia un sacrilegio per me. Non saranno. No. Lascia perdere Giulio, con tutta la benevolenza, però no. Assolutamente. Tu. Putedini, tutto sommato poi che vinca o che perda, a me non è che mi interessa più di tanto, però ripeto, sarei molto contento se mi cesse la Juve, perché mi è antipatico il Milan e mi è antipatico soprattutto l'Inter, anzi devo dire di più, se sarei stato io o un giudice avrei stato anche a Molassi, diciamo che è troppo veo. non posso vedere, cioè, no, cioè, non veramente, no, non li soffro, tutti quelli che sono dall'altra parte, ma non voglio, non voglio dire niente, però è così, se vincono meglio così, se perdono, peggio paese. Questo è il contatto, è dono, indubbiamente io non me la prendo più di tanto, se perdo pazienza, anch'io so che ho fatto tantissimi anni di sport, allora so cosa vuol dire vincere o perdere, allora lascio sempre che vinca il migliore, io dico sempre vinca il migliore, indubbiamente, però ripeto, sarei contentissimo se vincesse la Juve, dal momento che io simpatizzo per la Juve. Volevo dire che adesso stasera mi guardo anche l'altro programma sulla 7 Gold, dove c'è Crudelio e Giganti, fatto un bel ridere. Ah, sai, perché siccome da una parte mi ascolto dal decoder la partita, perché non l'ho caricata la scheda, mi sono dimenticato, ascolto la partita lì dal decoder nella radio stesso. Ma c'è l'altro televisorino come l'alimento? Come stai a dire? Ah, la partita te la ascolti dalla televisione stesso, cosa vuoi dire? Che c'è solo il canale radio, l'altro dove c'è quel programma sulla seconda, sai come me lo guardo? No, io so solamente una cosa, che se vuoi ti do l'indicazione come guardare dal computer, sempre quello, se non hai la scheda ti posso dare l'indicazione come guardare dal computer e la vedi, ti posso garantire che la vedi. E già lo so che la vedo. Io quella là per guardarmi la 7 Gold attacco l'altra magnetica che ho del baracchino, io la vedo benissimo, non bene, no, benissimo. La tenere del baracchino va bene, anche tu prova a fare un esperimento, prendi un pezzo di cosa, metti il barilotto a 2 PL, cioè il PL più il capo dell'antenna normale, la femmina con l'antenna normale, la rinetti e attacco il decoder, vedi che si vede la televisione, non bene, non benissimo. Certo, se tu gli crei l'antenna, se tu gli metti un filo, anche con un filo puoi vedere, perché no? Basta riuscire ad indovinare la lunghezza per la risonanza, vedi, perché no? È semplicissimo, sono cose fattibilissime, se per quello ti dico io anche come puoi fare, senza antenna, senza niente, tu prendi un pezzo di filo, un pezzo di piattina ad esempio, no? Lunga, che so io, intorno ai 80 centimetri, una cosa del genere, spegni i due fili da una parte e spegni i due fili dall'altra e li unisci insieme, uniti insieme, li metti. Poi, siccome la piattina ha due fili, no, al centro esatto, prendi e tagli un solo filo, tagli, lì ci attacchi il capo di ricerca e l'attacchi alla televisione, prendi un bastone di legno, una grossa di legno e l'attacchi sul coso di legno, così, no, con due chiodini, eccetera, questa piattina, e tu la orienti questa croce, no? E vedrai che vedi la televisione, tranquillamente. Ma io la faccio funzionare con l'antenna del baracchino e ti dirò che addirittura i segnali RAI, sono a guardia fondo scala, c'è il rilevatore e c'è una percentuale altissima, anche in UHF, piglia tutto, si vede tutto, con l'antenna del baracchino, senza fare niente, tu attacchi e lui parte, c'è lo spettrone modificato come ce l'ho io, attacchi e parte, l'ho coperto io, ma funziona molto, molto, molto, molto bene, ma bene però. Sì, beh certo, dove abiti tu c'è un segnale fortissimo, ti puoi immaginare, dove abito io qua, il capo che va dall'antenna, cioè dal televisore all'antenna, no? L'antenna, la presa della TV, solo ad avvicinarla, avvicinata vicinissimo così, no, senza infilarla dentro, già si vede la televisione. Perché? Perché c'è un segnale straordinario. Io qui ho un segnale sia della qualità che, del, che come segnale, come il livello del segnale al 100%, è straordinario. Ma tu immaginati, da Monte Oro a qui a dei punti, se no io da qui lo vedo il ripetitore dalla strada, senza bisogno di salire nemmeno sul tetto, vedo dalla strada il ripetitore, perciò tu è semplice. E io una volta mi sono trovato a Monte Oro, dove ci sono tutte le antenne, e c'aveva un mio cliente, ci aveva, gli avevo fatto un lavoro, e quando glielo ho portato si stava arrabattando con televisori, cioè non vedo troppo, cioè vedeva una serie di segnali che disturbavano l'uno o l'altro, no? Perché? Perché c'era un eccesso di segnale. Se permetti, te lo sistemo io un attimino, tu lo sai, io ho fatto per tanti anni l'antennista. Gli ho fatto un cavo, ho preso un cacciavite, ho trovato una posizione ben stabilita, gli ho detto: mi ascolta, tu l'antenna questa la stacchi, l'antenna tua la stacchi, non la utilizzi più, e ti lascio sempre questo così, in questa posizione. Beh, gli avevo fatto io un dipolo che attenuava il segnale e entrava bene, e non c'era più quell'accavallamento di segnale, sai, lì ci sono tanti ripetitori, sicché i segnali hanno finito, uno si accavallava con l'altro, era un casino, e io ho sistemato il discorso così, in quella maniera, capito? Ma sì, proprio nel ripetitore di canale 5 abita una mia zia, abita proprio lì sotto. Per vedere la televisione ho dovuto girare l'antenna in senso contrario, se no faceva, usciva tutto sfocato, tutta striscia, un casino, guarda. Sì, perché la televisione ha necessità di un ingresso, cioè tanti decibel di ingresso, di segnale, però non deve superare quella soglia, perché se supera quella soglia di decibel, allora a quel punto lì la cosa va male, allora si sovrappongono tante interferenze e non vedi niente, o meglio vedi malissimo, capito? Perciò c'è un minimo e un massimo, non deve essere al di sotto del minimo, ma non deve essere nemmeno al di sopra del massimo, mi sembra che intorno al massimo intorno ai 90 dB, una cosa del genere, mentre invece dalla parte più bassa è intorno ai 60 decibel, di avere un segnale per essere accettabile, intorno ai 60 decibel, da 60 ai 90, no? Se vai più in basso, più in alto, ecco che hai dei problemi, sia di ricezione o di super ricezione, capito? Allora hanno messo l'antenna, l'hanno dovuta girare a parte in contraria. Girandolo a parte in contraria si vedeva bene, era perfetto proprio. Beh certo, perché evidentemente come l'hai girata ha attenuato l'intensità del segnale, ed ecco che vedeva bene, perché molto lì, perché ripeto, se c'è un eccesso di segnale è peggio addirittura di un segnale scarso, te lo posso assicurare, perché con l'eccesso di segnale non fai altro che vedere mille programmi, tutti uno sull'altro, un casino insomma, mentre invece con un segnale scarso puoi anche vedere magari con un po' di nuvole, un po' di nebbia e te lo vedi, capito? Allora lo aumenti un tantino, lo aumenti, è come per dire, non so, se metti un amplificatore ad esempio, un amplificatore dell'antenna, no? Perché tu hai un segnale basso, lo vuoi amplificare per portarlo a un certo livello, se questo amplificatore lo alzi troppo, lo aumenti troppo, finisce che poi viene supermodulata l'immagine, e soprattutto l'amplificatore deve essere a rumore 0 o al massimo 0,2, perché se c'è un alto rumore ci sono sempre dei problemi in ingresso di segnale, capito? È un casino. Dopo tutto, dai, sono quasi le 7, abbiamo modulato per oltre 2 ore, 2 ore e mezzo, mi sa che adesso smetto e me ne scendo giù, intanto perché voglio stuzzicare qualcosa, e poi anche perché voglio bere qualcosa, mi si sta scivolando anche la gola. Vabbè, ciao Antonio, salutoni, grazie per il nostro paio di quaseo che abbiamo fatto, grazie anche a Antonio Grozzi, se sta ascoltando, lui al telefono, sembra un impiegato della Telecom. È una battuta Antonio Grozzi. Alle prossime, ci sentiamo, ciao Antonio Bombo, lo riprendi, non so se Antonio Grozzi lo prende ancora, vai. Yeah, ciao Giulio, ho passato un attimino il telefono alla mia 25, vi ti posso salutare, dai, ci sentiamo alle prossime, è stato un piacere fare un micro QSO, dai. Riprendi il Momolo per i saluti e io chiudo la telefonata e sono a voi. Ciao, no, adesso me ne distacco perché vado a fare una cosa, dopo quattro. Ok Giulio, ce la risentiamo tutte le prossimine, fate sentire, salutoni. E grazie del QSO abbiamo passato una giornata tranquilla e bella. Ok, ciao ciao Giulio, ce la risentiamo. Kappa. Ok, ciao Antonio Bombolo e ciao Antonio Grode, salutoni ancora. Oh, salutami tuo padre, tanti saluti a tuo padre Antonio Bombolo, ci sentiamo, ciao ciao ciao. Ciao ciao Giulio. Bombolo. Tutto. Fammelo però una cortesia, fammelo una copia di quei dischi, tipo il ragazzo della curva B, Napoli, Napoli, Napoli, fammelo una copia. Ma non sai che sta cazzo di cosa? Sono le canzoni di Nino D'Angelo. Ah, che cavolo, non è ascolto di quella roba. Allora, se tu mi stai a fare la macchina, la bomboleria, la luce del cosino, il braccio fuori, ma pure la poi. Ma non di che ci dai culo, tu è Napoli, cazzo. Napoli, Napoli, Napoli, forza Napoli, Napoli, Napoli. Ma per la che da nel fatto? Ragazzo della curva B. Dai, ma per la che da nel fatto, tanto. E sono contento, non mi sembra vero. Fabrai. E va, adesso vado a lavarmela. Adesso vado e faccio una bella doccia. Vabbè, ciao Antonio, ci sentiamo dopo, dai. Attenzione Claudio Sparviero, se sei in ascolto, attenzione. Attenzione orecchie di porco. Attenzione lo Sparviero, attenzione Claudio lo Sparviero, cambio, cambio. Chi viene alla questo raduno di, del, dei cavalli puro sangue, dei modulatori puro sangue? E quale? Dovrebbe essere a luglio, non so quando lo fanno, forse il 29, boh, mi stava dicendo Gigi che dovrebbe essere intorno a quella data lì, dai. Vediamo, so che hanno invitato solo gente seria. Guarda, noi non ci fanno andare. Tu di certo no, io non vediamo. Io ma intanto mi sono comprato la presa per fare le magliette, quindi preparati perché andiamo con la maglietta personalizzata, però con la toga. E che tu ci scrivi la tua? Proprio lo zingaro. Però per lo zingaro ce ne ti so. Vede il Gingi, il Zinghi, anzi il Gizzi. Ma che mi hanno invitato anche a voi? Guarda che se non ci sono io non invitano nessun altro. Allora io non ci sono, guarda. Guarda che comunque a parte gli scherzi ho comprato, ho ordinato una presa per fare le magliette, per stampare. Quindi andiamo con la maglietta personalizzata, ci vediamo un attimo come farla. Noi ce l'abbiamo già pronta, sono già in stampa a Cagliari, poi tu vuoi paghi sui tuoi piatti. Buonasera a tutti comunque. 50 più 50, poi mi scarica, aspetta che guarda, allora 450, sì che me lo segno. Oh yeah, aspetta. Acquistare anche una di quelle antenne che era per utilizzare le, come si dice, il radiali, per metterli sulla via 27L che ho preso, quindi avere i radiali poi della Gran P da mettere. Però a questo punto mi chiedo, se io metto i radiali della 27, della come si chiama? Della Grand Plain, realmente il coso centrale, l'asta centrale, dove me la metto? Io un'idea ce l'avrei. Tanto non so che spazio hai, ci sono tante soluzioni. Io un'idea lo devo mettere per lo stile centrale, ce l'avrei. Ho fatto già ce n'è, se no la metto dove le tiene Fabrizio. Non è bruttina con l'antenna, ti prego, cazzo, non è bruttina. Cazzo, è così come che va benissimo. Se no secondo che gli elementi della Gran Prix diventano un bagno, cazzo, veramente fea. Acquisti sicuramente hai un piano di massa superiore, ma ti aumenta anche il QRM, non so, sono scelte che io non ho mai fatto. Io poi per come è resistente con l'antenna ti spezza tutto, anche perché se non ha né il coso, come hai visto, col flattorello a serraggio, fa un casino, perché basta che in punta del radiale ti si poggi anche un fringuello che sono 2 kg, poi dall'altra parte per una questione di legge ti spezza tutto. Infatti lasciano stare così, lo sappiamo tutti. Va bene, ma una buona antenna per l'uso CB. Funziona molto bene, infatti l'ho detto a Massimiliano, se dovesse capitare un'altra me la prendo, la piazzo anche io a fianco alla mantola, faccio un'altra calata, tanto devo aprire il pluviale, ieri abbiamo provato una scala, ma non vi dico, mi hanno dato una scala da 8 metri, quindi ho detto come sono arrivato a metà, tanto si stava piegando, cioè come si fa a fare scale, meglio guardate immediatamente. Come sono arrivato ai 4 metri di quelli in alluminio che prendono il bricco, mezzo con le scale alte, come sono arrivato ai 4 metri si stava piegando in due, ha detto vara. Se voi ce l'ho io, però in acciaio è peso un bel, ed è, dovrebbe essere lo stesso intorno ai 6-7 metri. Ma è retrattile, come facciamo a prenderla? Questa è retrattile, c'è stata addirittura nel fiorino di lavoro, ma come abbiamo iniziato a tirarla l'ho appoggiata, sono salito perché c'ho questo amico che viene con la toscana, però adesso si è rotto il tubo idraulico, quindi l'ho portata a riparare, ne ho le palle piene, questa calata è già dentro il tubo, devo aprire, entrare la mano e tirarlo fuori, quindi ci vuole 5 minuti, però il problema è che devo salire. Sono 2 piani, sono 3 e 3 6, più c'è un altro che saranno altri 2 metri buoni, quindi sono 8 metri, ci vuole una scala da 8 metri, capite? Ma ti dico, si stava piegando in due, eppure non è che sono così pesante. Pesante mentalmente sì, fisicamente no. E però a leggere nel cervello delle persone non è giusto, eh. Sto dicendo, se voi certo che è retrattile, cosa mi dico, cosa c'è una scala di 7 metri come l'ho portata a casa, se non fosse stata retrattile, è la stessa scala però in acciaio, perché è pesa un bel, quelle in alluminio le hanno fatte proprio per essere meno pesanti e più fruibili, diciamo, però è ottima, cioè guarda, ci siamo saliti in due, cosa che non si deve fare, però mi serviva una persona a mezza scala che mi tenesse le cose che stavo scaricando dal tetto, poi ha resistito perfettamente, se viene a prenderla non c'è problema. Sì, grandezza notti. Grandezza? No, ho detto ce l'hai in via degli astronauti. Mappa di Roggero. Beh, settimana ci mettiamo d'accordo, tanto mi sa che questo tempo ancora dura qualche giorno, speriamo di no, di non le palle piene, veramente. Dai, ci mettiamo d'accordo, tanto io mi faccio quest'altra prova, altrimenti devo per forza prendere l'altra scarpa, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. C'è uno che ce l'ha libera, 60 euro all'ora, però dice anche se ci stai 10 minuti, a me sempre 60 euro mi devi dare. Allora faccio, grazie. Ha detto Bernacca? Gratuito. Aspetta, cosa gli ha detto Bernacca? Cosa ha detto Bernacca? Cos'è? A metà settimana cambia il tempo. A metà settimana cambia il tempo. Sergio. E allora sarà così. Avanti Luca. E quindi dopo una settimana ti viene a cagare da un mese. Là. Perfetto. Quanta settimana ti viene a cagare? Perché mi deve venire a cagare? Così. Perché se. Ma sarà, eh? Allora sei un mese a casa, senza uscire. Avanti Beppe. Come scusa? C'è un filo staccato. Gianni, scusa. Stamattina quando tu mi hai chiamato non potevo rispondere perché mi si è staccato un filo del microfono. Aspetta. Sto uscendo la regia. Sono 48. Cosa è? Non ho capito. Come mai? Ti ho troppo girato. Non lo so. È successo. Si è staccato il filo del microfono e dovuto smontare tutto lo spinotto e risaldarlo. Adesso devo vedere come stava andando. Fammi. Dimmi qua. Vabbè, se risolviamo ci spostiamo. Hai trovato niente? Ciao Gianni. Sto cercando. Ho cominciato gli altri pierini. Si potrebbe essere un comune e due positivi. No, ho letto qualcosa su Italia, ma non sto trovando, anche perché non capisco la necessità, dovrebbe essere un condensatore e tutto uno, ma sono due condensatori, alla fine mettere uno al posto di due, non so, non che ne so, metterne due da 50 microfarad, 400 volt con la massa comune, anche sono più in comune le masse, ho capito che tipo di condensatore, che funzione fa, ho capito. Neanche io, non so cosa le serve a Roberto. Lui mi ha chiesto questi, guardato sta sigla al telefono, mette comprare qua a Sassè perché lì a Iglesia intanto non c'è. Quindi se vai da Fusano o alla GBC, se no come sera ci vado io, vediamo un po'. Se non lo chiamo voglio che dica, dico che l'ho provato. Sono un po'. Sono in giro, un altro passiamo e chiedo. È un condensatore a tre pilini, uno positivo e un negativo. Penso che siano sostituibili, ma hanno qualche funzione particolare, ma non lo so. Thank you. questo cosa sono imballato. Due signore che ci sono dietro, capito? Ore bassa? Addirittura, addirittura senti la popolazione delle signore invece che la mia. Di Rogero, aspetta, c'è una bassa a cui non voglio rispondere e devo aspettare che la smetta. Riprendi Luca. No, come la batteria, aspetta. Gabba Gabba, chi è che c'è animato? Mi sembra di sentire Vittorio Volpe. Ehi, ciao Anto. Ma Vittorio, non essere timido. No, sto facendo una cosa, capito? Mi sono un attimino distratto per finirlo e poi già sono in ascolto comunque. Ma direi oggi ancora la tosse, sì. È un po' di tempo che te la stai portando dietro per fare uccidere. Lo so, ma in via di estinzione. Buonasera, Vittorio Volpe. Ciao Giuseppe, ben sentito, anche tu. Non mi sono accorto di tu perché sono un po' lontanuccio dalla radio. Comunque ho voluto rispondere per dimostrare che anch'io ascolto e sono tranquillo, insomma. Però volevo fare riferimento a ieri che c'era una portante molto potente e non riesco a capire che cavolo poteva essere. Ma qua stava arrivando a fondo scala questa qua, poi ti ripeto, è relativo perché anch'io posso avere due segnali, basta che attacco un attimino, basta che vado, cioè diminuisco leggermente, quindi è inutile stare lì, e quando uno è un idiota, è un idiota, poi è inutile stare lì a cercare di capire chi è, tanto l'etichetta se l'è già messo da solo, a prescindere. Vabbè, ma se questo qui stava muovendo con un lineare potentissimo, ok, lineare potentissimo ne hanno tutti, e cioè questo, quindi non è possibile individuarlo, solo che c'era un discorso che probabilmente, siccome sentivo anche Claudio parlare, probabilmente questo sarà certo la portante accesa, perché sentivano dei familiari che parlavano all'interno. Ah sì, no, quello lì sì, ho capito, me l'hanno detto, ieri sera è successo questo piccolo, ma non era, era una portante non voluta, nel senso che si è dimenticato il PTT in lock e quindi ha fatto un po' di trasmissione senza rendersene conto, importante e fissa. Ma io non è che stavo modulando, io stavo, l'ho acceso, mi succede questa portante sul 10, niente, non sto riprovando nessuno, a me non mi interessa, perché tanto non stavo modulando con nessuno, è che quando l'ho acceso c'era già questa portante e sentivo Claudio che diceva appunto che probabilmente se era qualcuno lasciato il l'apparato acceso e però rischiava anche di bruciarlo, perché a lungo andare poi su riscalda il finale poi parte. Sì, lo so, ma era successo anche al poveraccio, quindi non è che sia successo niente di particolare, a Roberto Quadrato che aveva schiacciato ed si era fatta una telefonata facendola sentire a tutti, ma senza rendersene conto, poi non aveva detto niente di particolare perché parlava di calcio, però sono cose che capitano, tant'è vero che io sto un po' attento quando c'ho l'MC60, perché un attimo ti rimane il pulsante bloccato perché è proprio a pulsante e diciamo che violi senza rendersene conto la tua intimità familiare. Ok, vabbè, lancio a Giuseppe, dai, io mi sento un attimino così continuo questo lavoretto e poi riprendo eventualmente. A dopo. Ah, ciao Vittorio, è un piacere averti sentito comunque. Non dico la solita frase, quando vuoi entra, perché non ci mancherebbe, non hai bisogno certamente che te lo dica io, perché questa frase a volte è un po' di presunzione di chi sembra quasi che detenga la frequenza della serie, entra quando vuoi, e ci mancherebbe, perché il permesso ti devo dare o mi devi dare, visto che paghiamo tutti la concessione. Comunque, riprendi Joseph. Se non c'è Luca, hai finito a cambiare la batteria. Non ce la fa più, non ce la fa. Mi senti, guarda. Non ce la fa. E poi la batteria è grossa, Aspetta. Non ce la fa. La sono dovuta caricare, ma mi sa che... Hai crepato la batteria dell'elicottero, quindi quella interna? Ti fanno andare la prima, la seconda volta e poi ci fanno farti benedire, poi te l'ha crepato. Non ce l'ha fatto. questa qua. Questa carriera davanti non ci sta più, perché è più, è leggermente più grande. Capito? La torre originale non fa più, non tiene più la carica. Cazzo. Qua sono tutto quanto, va. Dobbiamo smontarlo, se lo attacco, anche se lo smonto, aspetta.